Benvenuti ad un'altra puntata di Mizu Segone Triforce o Triforce o quello che volete voi. Siamo al quarto episodio e siamo sempre noi. C'è Vario Punk e Pietro Turri sono qui. Scar the Pumpkin, Claudio Turri. C'è un cane alla porta. Ok. Vado a aprire. Riccardo Prati, Rixka quarto. Ciao a tutti. E lì, Marco... piano piano mi evolvo. Bravo. E Marco Girardi, Zira 93. Ciao grandissimi! Ok, perfetto. Abbiamo finito le presentazioni, quindi iniziamo subito con gli annunci fondamentali sulla trasmissione. Pubblicitari, no? Allora, la pubblicità GameStop ce l'hai te, vero? Aspetta, no, non ce l'ho adesso disponibile, ma ne faremo tante durante questa puntata. Penso dopo io durante la mia trasmissione, perché ovviamente parlo di un gioco che ho acquistato lì, quindi... Ecco. Va bene. Allora, volevo dire che innanzitutto questo è l'ultimo episodio bisettimanale, se esiste la parola, concedetemela, perché dalla prossima settimana, che ovvero questo episodio uscirà domenica non so quale, domenica... Tutti. Però sta precisando che non è di domenica. No. Sì, non dovrebbe. Uscirà domenica 23, quindi l'episodio seguente sarà domenica 30. Sì, ma loro che ascoltano sarà già domenica 30, tu che dici? Domenica 30? No, che ascoltano sarà domenica 23. Stai facendo 23. Confusione. Questo è domenica 16. E... sì, nel passato. E quindi d'ora in poi usciremo solo la domenica. Anche perché la trasmissione è diventata abbastanza corposa e abbiamo... duriamo due ore, quindi... Sì, detta così è molto brutta, però va benissimo. Una settimana, quattro ore da ascoltare diventa pesante sia per noi che lo dobbiamo fare, sia per voi che dovete ascoltare, sia per chi ascolta per pagarci per la pubblicità che facciamo. Ma inoltre aggiungo che dalla prossima settimana si spera che riusciremo ad avere i primi ospiti game maker a parlare dei loro progetti. Io li ho invitati, ma continuano a rimandare. E in più, prima di iniziare, rettifichiamo le cavolate che ho detto io la puntata scorsa, ovvero ho sostenuto che Chronicles of Mystery è in terza persona. Come ho fatto a dire una cosa simile non lo so. E in più il gioco di cui non mi ricordavi il nome, ovvero il gioco che dicevo che dal 97 qualcuno paga il dominio per avere il sito su, era Hopkins FBI. Ecco fatto. Se anche voi avete delle cavolate che avete detto che dovete correggere, io so di aver detto delle cavolate, però non sai che non me le ricordo. Non me le ricordo. questo angolo che ci sarà. Quindi quasi... vi invito a segnalarmi tutte le cavolate che dico via commento, eccetera. Oppure sul nostro famoso indirizzo email, com'era? Dateci i vostri soldi per farvi pubblicità a @miciosegonetriforce.org. Org. Altervista.org. Ospitato dai nostri cari amici di Aruba. Sì. E quasi tutte le puntate terremo questo angolino per rettificare le nostre cavolate, perché siamo quasi sicuri di dire cavolate tutte le puntate. Così buttiamo via un'altra mezz'ora. No, abbiamo chiuso adesso, ok. Vabbè, se cambiamo dire meno cavolate... Invece adesso passiamo alla pubblicità progresso, ovvero... Se dopo aver ascoltato una nostra puntata credete di aver arricchito il vostro vocabolario d'inglese, non andate il giorno dopo a scuola a elogiarvi delle parole che avete appreso, perché molto probabilmente avete appreso parole che non esistono. Sia in inglese che in italiano, oltretutto. Soprattutto in italiano. In inglese forse a volte ci becchiamo. In inglese la pronuncia sbagliamo, in italiano sbagliamo tutto. Ma la pronuncia la faccio bene in italiano. Gli accenti tonici. Ok. Possiamo... Prima che vedi, ho già fatto un errore, vedi? Cioè... Nah. Prima della trasmissione abbiamo fatto virtualmente il gioco della pagliuzza più corta con un software che ha programmato Rixka prima della trasmissione. Cosa? E ho perso io, andiamo avanti. Cos'è che ho fatto io? Hai programmato un software per fare la morra, praticamente. Ah, ok. Aspetta che me lo segno. In Java era. Java? Aspetta che installo... No, sì? E adesso Sì, io avrei perso, però non posso parlare perché mi chiamano fuori dallo studio di registrazione, quindi inizia qualcun altro. Sì, sì, dai, ci penso io. Allora, Vario Punk ha dovuto andare a farsi una puntura, non so di cose. Non chiedetemi dettagli perché non mi interessano. Quindi, se non vi dispiace... Ha atteggiamenti strani ultimamente? Cercherei di... che adesso sto facendo cose strane. Allora, inizia... Inizi tu, dai, su. Inizio io? Sa che te la senti. Sì, sì, parti. Io devo... Purtroppo devo usare lo scanner mentre tu parli. Ecco. Quindi ti coprirò. Quindi ha fatto... Vabbè. Sì, dimmi, sì. Oh. Allora è più grave di quanto continua pensassi. A fregarmi la sedia, non lo so, vabbè. Va bene, adesso che lui finisce di farsi le lastre, andiamo avanti. Allora, scusate per il casino che sentirete. E vieni. Per le urla di dolore. Quando il casino sarà talmente forte che non capirete le parole, apparirà sullo schermo il messaggio per i sordomuti. Vabbè. Dai, andiamo avanti, stiamo già prendendo troppo tempo. Allora, oggi vi porto un gioco di Nintendo 64, il buon vecchio Pokémon Snap. Abbiamo anche la musica dei Pokémon in sottofondo, quindi... Dammi il tempo di mettere Mobile Games, se no spari delle date a cazzo. Io ho la custodia qui con il libretto degli anni 90, quindi c'è scritto tutto alla perfezione. Anni 90. Con le macchie di caffè, 99 mi... Non bevevo il caffè. Il professor Oxy? Sì. Allora, qualcuno di voi ha giocato a Pokémon Snap di recente? No. Io... Di recente no, però... Devi farti le lastre. Più o meno so come... cos'è più o meno. Ok, quindi... Ci ho giocato. Potrai interferire durante la mia recensione, se vuoi. Ovvio che no. Io sono una persona... Sì, leale. Qui la descrizione in inglese. Non no, volevo farti notare una cosa, ma te la dico dopo quando direi la data. Ecco. No, ma che è anche disponibile sul... sul Wii dal 2007 la puoi comprare dal come cacchio si chiama del Wii da GameStop da, diciamo. Virtual Console no da GameStop ah sì come tutti i giochi cioè tutti molti giochi del, più famosi del Nintendo 64 sono disponibili in Virtual Console cioè una console diciamo digitale inclusa nel programma Wii Shop della Wii che ti consente di comprare molti giochi e anche tipo... Pokémon Snap è tra questi. Boh, sì. Parli del 64 comunque. Okay. No, sì, non è boh. È scritto tipo Star Fox. Ce l'abbiamo sullo schedario. Signore dei suoni, fate sentire qualcosa su Star Fox. Beh, ho fatto presto, dai. Una lastra dovevi fare. Sì, okay. Al dittino. Io mi sento ignorato. Wey, siamo parlati 50. C'è anche la canzone che canta. Vai avanti, dai. Torniamo al gioco, almeno cerchiamo di capirci qualcosa. Pokémon Snap, come dice il nome, è un gioco sui Pokémon e Snap è il protagonista, almeno penso che si chiami così in Italia. Il suo nome originale in realtà è Todd e c'era anche nella prima serie del cartone dei Pokémon. È un ragazzo che di lavoro fotografa i Pokémon ed è molto bravo. Adesso non credo che qualcuno lo paghi. Lui vive così. No, non lo paga nessuno. O vivi così o vivi combattendo i cavo palestra perché ti danno solo loro tanti soldi, quindi vivrà così, vivrà così. Todd, chiamiamolo come in inglese, viene chiamato dal professor Rock sull'isola dei Pokémon per fare delle fotografie alle varie specie di Pokémon. Perché il professor Rock ha bisogno che lui gli arricchisca lo schedario dei Pokémon. No, ha bisogno di Ford. Sì, per completare lo schedario, no. Non mi ricordo come si chiama. Sì, invece. No. Sì, che è così. L'album fotografico dei ricordi preziosi. Anche quello. Comunque, l'isola dove andrà Todd è un'isola dove ci sono solo Pokémon, non ci sono allenatori. Perché il professor Rock non ha voluto chiamarli, sennò avrebbero ammazzato tutte le specie, soprattutto i Caterpie e i Weedle e i Rattata, che non ci sono, nessuno di questi tre. È un gioco del 64. Il genere non saprei dire che genere sia. Simulatore fotografico. Simulatore fotografico su binari, sì. Molto sparatutto. Sì, uno sparatutto su binari si può definire in certo senso. Sì, alcuni Pokémon come gli Electro li puoi uccidere. Ah. Sì, vabbè, non lo fai apposta. No, li fai suicidare diversi. Il Flash gli dà la testa. Vabbè. Vabbè, sono quelli che esplodono, no? Quelli... Sì, sì, sono le palle rosse e bianche. Però esplodono di loro iniziativa. Sì, sì, no. Quello sì. Sarebbe un strumento di autodifesa, peccato che... Sì, istigli al suicidio. Ecco, esatto. Così va bene. Quindi anche per gli appassionati di sparatutto è un perfetto gioco questo. Ma non lo so. Sì, sì, è perfetto. Un appassionato per gli sparatutto penso voglia un gioco magari dove ci siano qualcosa tipo armi da fuoco. No, vabbè, ti basta mettere in sottofondo tutti i suoni di Duke Nukem mentre giochi e sei a posto. Dopo Duke Nukem... Come on, baby! Piece of cake! Vabbè, questione di gusti. Okay. Il gioco non ha una gran longevità, perché se non ricordo male sono tra i 7 e gli 8 livelli. Però la cosa particolare è che per arrivare, cioè scoprire nuovi livelli, bisogna fare determinate cose in quelli prima. Per il primo livello non è necessario, basta finirlo e dopo ti sblocca direttamente il secondo. Mentre dopo, andando sempre più avanti, bisognerà cercare di risolvere particolari enigmi facendo certe cose su certi Pokémon. Per esempio, in alcuni livelli ci saranno alcune leve che potranno essere attivate solo se voi gli butterete addosso un Monkey o qualcosa del genere. Monkey, scusate. Monkey! O Pokémon del genere. Un'altra particolarità è che alcuni Pokémon potrete fotografarli solo se li avrete fatti evolvere. Perché per farli evolvere alcuni bisogna fargli fare certe cose. Per esempio, se ricordate Slowbro, saprete che Slowpoke si può evolvere solo se pesca con la coda uno Shellder. Nel livello in cui troverete Slowbro dovrete tirargli delle mele e attirarlo verso il vulcano. Non il vulcano, attirarlo verso il cartello della pesca. E dopo lui si metterà a pescare lo Shellder e si evolverà in Slowbro. Non stava pescando. Stava facendo quello che loro osano chiamare sesso. Vai avanti. Ok. Contenuti espliciti in corso. Dopo in post-produzione qualcuno dovrebbe aggiungere i beep. Credo di essere io, non lo so. Sesso non è una parolaccia. Se non mi vuoi passare il file audio, sennò io ti farei anche il post-produzione. No, non ce n'è bisogno. Noi lavoriamo così, siamo spontanei. Com'è che si dice in teatro? Non me lo ricordo. Non mi sto cercando di andare avanti. Sì, vai. Ovviamente il gioco non presenta tutti i Pokémon istinti al mondo, perché sarebbe una cosa assurda. Poi è anche vecchio, e infatti qui sarà solo la prima generazione. First generation. Dove erano 151. Qui non ci sono tutti 151, saranno tipo una cinquantina. Allora, il gioco funziona così, semplicemente. È un gioco a punti, non c'è modo di morire, e bisogna semplicemente godersi un ottimo viaggio, divertente, uccidendo Pokémon che incontrerete in giro. I livelli differenziano la tipologia dei Pokémon, per esempio c'è la centrale elettrica dove incontrerete solo Pokémon elettrici o Pokémon di caverna come gli Zubat. Per scoprire certi Pokémon dovrete girarvi con la telecamera in diversi momenti, quindi bisogna sempre stare allerta. E la funzione del livello è molto semplice. Voi dovrete portare a Professor Rock almeno 6 foto per andare avanti. E semplicemente dovete fotografare uno o più Pokémon. Il fattore dei punteggi è derivato dalla specie del Pokémon, da come l'avete centrato nella foto, dalla distanza della foto, anche dalle cose che sta facendo in quella foto. Se hai fotografato un Electrode morto, non Scoop? Penso... No. Non otterrete granché. Ok, vuole gli Scoop. Sì, cioè gli Electrode morti ne sono già avuti troppi durante la stagione. Un altro modo per fare molti punti è fotografare tanti Pokémon dello stesso tipo in una sola foto. Per esempio una famiglia di Growlithe, come si vede nella copertina. Durante il gioco si potranno incontrare anche Pokémon leggendari, quelli valgono un sacco di punti ma fanno cose strane. E ovviamente c'è un modo particolare per farli uscire allo scoperto. Insulti. Quelli sono su Zapdos. Ci sono anche riferimenti alle carte dei Pokémon. Se vi ricorderete, alcune carte speciali dei Pokémon avevano Pikachu sul surf o Pikachu attaccato ai palloncini. Ecco, potrete far volare un Pikachu o farlo andare sul surf. Inoltre, ogni livello del gioco presenta un'immagine segreta. Le immagini segrete sono cose che rappresentano un Pokémon, per esempio rocce a forma di un Pokémon o nuvole di gas. Se voi troverete e fotograferete in ogni livello tutte le immagini segrete, potete sbloccare il livello finale, che vi porterà al più grande scoop che Todd potrà trovare. L'amore. Sì, fotografare l'amore. Come lo intende Wario, però? Allora c'è molto sangue e violenza esplicita. Ecco. Che sangue? Per far uscire il sangue voi potrete usare le mele, le palle fumogene, oppure il pokeflauto. Ora, il pokeflauto serve per pochissima roba. Scatena la danza e il ritmo di chi ce l'ha nel sangue. Sì. Come Snorlax. Ovviamente se potrete... Spoiler, cioè Snorlax ho detto, boh. Spoiler, vai avanti. Se volete fotografare Snorlax fatelo ballare, insomma. Spoiler, sì, basta! Sì. Ah, va bene, se non vogliamo spoilerare ulteriormente non c'è molto altro da dire. Puoi prendere le assassate o tirargli le mele. No, no, questo non penso. No, sì, erano i sassi, sì. No, i tiri le mele, le palle fumogene o i pokeflauti? Ah, i fumogeni, sì, i fumogeni. I tiri pokeflauti non è che li esano, no? Sì, i tiri proprio. Servono solo come armi contro di Dopo le usano, però, dopo li usano. Contro di te. Ah. Aia. No, dai, seriamente, andiamo avanti. Niente, quindi sulla vostra 01, che è una macchina che il professor Oak ha creato personalmente... Che è il classico macchinetto da zoo in collaborazione con la Mitsubishi. Mitsubishi Zaibatsu. Altra pubblicità. A Mishima sì, Zaibatsu. Con la Apple anche magari, c'è anche la mela sopra. Durico, che sì. È il classico macchinario da zoo che ti porta avanti sul binario. È classico, c'è solo in Jurassic Park e poi una Jeep. Appunto, sai, dove è che l'abbia preso il professor Ocride? Ha rilevato dal fallimento Jurassic Park. Ma infatti ha un'asta fallimentare. Nel secondo Pokémon Snap Todd andrà in quell'altra isola e doveva fotografare i bei dinosauri. Fa una bella fine. Ah boh. Infatti non si è mai visto il secondo gioco. Chissà perché. Il primo costava un'esorbitanza. Va bene. Tralasciamo il costo. No, è vero, i giochi del 64 costavano un'esagerazione. Perché sono pochi e 64 ha avuto poco successo in confronto alle console che suoi rivali come la PlayStation 1. La PlayStation. La PlayStation. niente. Non ho altro da dire. Il gioco è questo. Non è brutto, ma secondo me non è neanche, non è troppo, è poco lungo. Non è longevo. Ed è. Sì, ha un minimo di giocabilità, ce l'ha, perché comunque vi induce a cercare modi per scoprire nuovi Pokémon, o per farli evolvere o per trovarli. Ma per il resto non è niente di particolare. Se dovessi dargli un voto in banane, gli darei un 2,5. Un pochino, diciamo. Un attimo, sono io, devo... Allora, fai un rewind. Se dovessi dargli un voto in banane, gli darei un 2,5. Ok. Ho detto 2,5. 2,5? Quella è una banana. Ma mica le faccio 2 e poi stoppo la terza. Sì, perché se poi dico la quinta, dico 5 banane, qua ci rimaniamo per mezz'ora. Oh, esatto, volete risparmiare tempo e poi volete che metto banane su banane. Andiamo, lo sapete che non esiste un gioco da 5 banane. Sì che esiste. No. E si chiama... Non si può dire. Lo scopriremo nella prossima puntata. Dove tutti e quattro recensiremo lo stesso gioco. Sì? No. No. Però credo che il gioco di cui stiamo parlando l'abbiamo giocato tutti e quattro, quello sì. Ma bisogna vedere di cosa stiamo parlando. Marco... Non possiamo dirlo perché... Marco lo sa. Io lo so? Sì, lo sai. Lo sai, lo sai. Dentro di te quel gioco. No. Beh sì. Tutti lo vedono la verità. Quando l'hai finito ti lascio un pezzo di sé dentro. Quindi un pezzo di cartuccio. No, generazione PC, ragazzi. Ah. No, vabbè, abbiamo detto la... È in Fandango, basta. In Fandango. Ah, in Fandango. In Fandango, ovviamente. Rarissimo gioco. E ce l'ho scatolato. Detto te. Ora per farti avere un gioco scatolato ti chiedono anche un rene, perché... Non rispondo neanche. Allora, la scatola è la scatola. Ok, quindi abbiamo parlato del 64. Pokémon Snap. Aspetta, vediamo due curiosità su Pokémon Snap, se ne esistono. Credo di no. A parte, abbiamo già detto che si può trovare sulla Virtual Console. Alle Epic Games no, però. No. Neanche al GameStop, che è il vero nome originale. Basta. Io la chiamo Epic Games perché una volta si chiama Epic Games. Vabbè, bisogna fare anche pubblicità. Allora, racconto. Stavo dicendo che si può, se lo volete provare, potete comprarlo onestamente sul Virtual Console della Wii. Se invece volete andare contro la legge, come fanno tutti, male. Fanno, io non l'ho fatto. Fanno tutti male. Vabbè, noi l'abbiamo comprato 20 anni fa. Potete scaricarlo nell'emulatore. È possibile anche scaricarsi perché ha una Wii magica. Ah beh, certo, l'emulatore che non mi ricordo. No, ma che emulatore? No, ti poi... deve mangiare una Nintendo 64. No, semplicemente esiste per Virtual Console e quindi esiste già ottimizzato per la Wii funzionante, ovviamente con la Wii magica o spendendo soldoni sul... Cioè, su Mobile Games è una curiosità, però l'hanno messa giù, sembra una frase tratta dai Goonies, praticamente. Dice, c'è un totale di 63 tipi differenti di Pokémon in Pokémon Snap. Molti giocatori hanno tentato invano di trovare i Pokémon mancanti. Firmato Willy Lorb. Probabilmente erano coreani allora. Molti giocatori hanno perso la vita in vano. Ecco, allora sono coreani, ecco, questa è la prova finale. Vedendo un po' di recensioni, come tutti i giochi, che infatti non ha senso guardare le recensioni su Mobile Games, perché tutti i giochi vanno da 50, da minimo di 5 su 10 a massimo di 9 su 10, tutti. Vabbè. Ah, non esistono giochi voti negativamente? Esistono, se guardi la classifica dei peggiori giochi, te li fa vedere, e uno io ce l'ho tra l'altro, è Bad Day LA, non so se l'avete presente. Che recensirai nella prossima? L'ho già sentito. No, sarebbe LA, Los Angeles, si pronuncia LA. È un gioco terribile di American McGee, quello che ha fatto Alice, no? Ah. Presente Alice in versione Dark. Sì, sì. Lui è diventato ricco con quello, hanno detto che è un genio, poi ha fatto solo giochi schifosi, sostanzialmente. E tu l'hai comprato? E io in edicola l'ho comprato. No, l'ho comprato in edicola. E costava 10 euro. La Gazzetta dello Sport. Cioè, ti fai due risate, però il gioco in sé veramente è... Secondo... Vai, finisci. No, dico, è alla stregua di un gioco indie fatto da una persona sola. Sì. Ma secondo me il peggiore di tutti, anche secondo Moby Games, è Big Rigs Over the Road Racing. Andiamo a vedere. 7 ha preso. No, ma c'è proprio... Se tu cerchi, ti fa vedere i peggiori, però non mi ricordo... Io sono andato su Moby Stats, ho cliccato su Bottom Games. Ecco, esatto. Il primo è Big Rigs Over the Road. Non lo trovo più. L'avevo trovato un giorno per caso. C'è anche l'Homo Pepsi in mezzo. Eccoli. Moby Stats. Ecco, sì, Bottom Game, ecco, l'ho trovato. Sì, è vero, ha preso. Cioè, 7 in che senso? Non capisco. È più bello dove è World, addirittura. Ah, 7 su 100! 7 su 100, sì. Vediamo un po' di screenshot. Sì, no, ma è assurdo, se vai a vedere, io lo conosco sto gioco, se vai a vedere su YouTube i video è assurdo. C'è un camion nero, un semiarticolato nero che sta fluttuando in un lago grigio. Sì, sì. Ma fluttuando, e c'è un puntino rosso di un laser che gli punta contro. È un simulatore di volo di semiarticolati. Ah. Anche qui che cacchio sta... Qui c'è un semiarticolato nero, ovviamente, senza texture, che va sui monti innevati. No, sta andando a zero all'ora, poi. Sui monti innevati. Mi dicono un gran gioco, quindi. Poi, qui il solito semiarticolato nero entra dentro un edificio, passando attraverso i muri neri. Vabbè. Altre scene epiche dei semiarticolati? Ah, qui c'è la scena di notte, ovvero il semiarticolato nero sul nero. Invisibile. No, cioè... Che meraviglia, Dio. È per sempre nero il semiarticolato. Sì, e qui c'è una recensione che è intitolata il peggior gioco in assoluto dell'esistenza. Non del mondo, dell'esistenza stessa. Deve essere stato particolarmente brutto. Tra le recensioni anche raccolte su Mobile Games, a parte che qualcuno gli ha dato 10. Addirittura? No, aspetta. Qualcuno gli ha dato 0. Perché Game Cola gli ha dato 10 per il gusto del trash? Ha fatto pubblicità. Sì. Ma scusa, dov'è che stai guardando che gli ha dato 10? Se tu vai nella scheda del gioco, c'è la The Press 6. E Game Cola gli ha dato 12. E... No, io vedo 1,17 su 10. Quindi c'è scritto 12. Ma ci devi dire cosa. Sì. Ah, 12 dopo. Ah, 12 non so cosa sia, però sì, infatti. E il commento è: ci togliamo il cappello davanti al miglior gioco mai fatto. Sicuramente è un commento sincero. Sì, per il coraggio più che altro. Sì. Addirittura hanno dato 0,7 all'inizio. No, cioè, se vai a leggere la recensione, c'è scritto: prima di tutto, il gioco ha una storia fantastica. Tu sei uno che guida i camion che non hanno niente da consegnare. Ah no, non ha il pezzo dietro il camion. Ah, oh, bello. Questo il pezzo davanti. Poi, assieme a lui abbiamo la versione NES di Dov'è Waldo? Ma non ci interessa, non sembra così divertente. Extreme Paint Brawl. Anche questo l'avevo già sentito. Vediamo un'immagine. Ah, c'è solo lo screen iniziale, quindi... Però oddio, ma cos'è? La grafica è acquerellata. I pixel sono talmente evidenti che è acquerello diventa... Scusa, è estremo. Però parliamo di pixel art così estrema nel 98. Quindi No, anche Laser Suit Larry Boss Office basta in questa... È ottavo, a pari merito con Anubis 2 e Ninja Breadman. Povero Larry, che fine. Ninja Breadman, vabbè. Legend of Zord, cos'è? Zelda Tarocco? Può darsi. C'è solo la... No, io volevo vederlo. Questo è del 2003 poi, ed è settimo. Un attimo, adesso torniamo alle nostre solite rubriche. Esatto, stavo per prima dire... voglio vedere Legend of Zord, non posso resistere. Legend of Zord è un Prince of Persia con le barre della vita di... Le ho già viste, di coso, di Soul River. Però il protagonista sembra uscito da Prince of Persia, quello vecchio, però non è nuovo. Però non si capisce cosa stia facendo, peccato. Sta correndo in un salotto, come fanno tutti. Cioè, praticamente è un salotto. Come fanno tutti. Dai, cercate di fare un po' di jogging. Addirittura qui c'è anche l'intervista ai creatori, direi che l'hanno fatto in India, vabbè. Bello, bello. Questo gioco è settimo nella classifica dei peggiori videogiochi. Beh. Oh, almeno viene ricordato. È comunque viene ricordato nella storia, questo è importante. Bello. Sì. Esattamente. Sta camminando su un ponte sospeso. Per andare nel salotto. Per andare su un trombatorione. No, in un trombatorione. Bene. Finiamola qui. Mi ha perso anche della vita. Di delirare. Abbiamo parlato di Pokémon Snap e adesso parliamo di... Di? Extreme Paint Brawl. Tocca a te. Ah, in teoria toccherebbe a me perché ho perso io. Quindi... Quindi parliamo di avventure grafiche PC e di Jolly Rover. Non c'è il sottotitolo, no, non c'è. Jolly Rover, ovvero... Adesso andiamo a prendere un po' di dati. Prima ero su Mumbai Games, poi... Quando ho visto tutti quei giochi magnifici sono andato a cercare le immagini e non sono più. Mobi Games. Jolly Rover. Allora, Jolly Rover è uscito prima di tutto in Digital Delivery. Digital Delivery. Sì, Delivery, sì. Quando deriva? Nel 2010, suppongo. Quindi se 2010. Fortunatamente da noi, fortunatamente per modo di dire... Cioè, fortunatamente, sì, dai, diamogli un fortunatamente... In Italia è stato distribuito anche fisicamente dalla... Ah, ecco perché ce l'hai. Dalla Adventure Production, che ne abbiamo parlato l'altra volta molto bene. E oggi ne parliamo male. No, perché avevano distribuito il gioco che aveva recensito Marco, ovvero The Darkness Within. Esatto. E hanno distribuito attraverso... Zodiac, il loro canale di Digital Delivery, anche la versione digitale di Jolly Rover a 4 euro mi sembra costi. Beh, molto poco. E attraverso... Sì? 4,90 qua mi dice su Adventure Game Shop, quindi non quella digitale, quella fisica. Ah, ok. Addirittura. Ci sono i saldi estivi, sì. Ah, io l'ho pagato 15 euro al solito GameStop. Ah. Strano. Ma comunque, sì. Cioè, 5 euro una versione fisica è veramente, veramente poco. Solo... solo il DVD CD che sia dovrebbe. No, poi perché era nuovo usato lo troviamo a 6-7 euro. Vabbè. Parliamo di Jolly Rover allora. Jolly Rover, cosa dire? È il solito voglio essere Monkey Island, così sono sicuro che vendo. Questo è il concept iniziale. Cosa fa di nuovo come fanno tutti? Ovvero tutti tirano fuori i pirati ma ci buttano qualcosa di nuovo. Qui la cosa nuova è che il mondo è abitato solo da cani antropomorfi. Ogni persona è una razza di cane diversa, quindi almeno a livello l'ambientazione a livello di varietà c'è. Allora, iniziamo da parlando della trama. Il nostro protagonista è Gaius James Rover, un bassotto che è scappato dal suo villaggio natale con la sua zattera e un sogno. Per diventare famoso come scopritore di una bevanda che lui ha chiamato Jolly Rover. Solo che durante il suo viaggio da mercante di questa bevanda viene rapito da una nave pirata che gli ruba tutto il carico. E durante... cioè, praticamente da questo rapimento la storia diventerà lui... che è costretto in un modo o nell'altro a comportarsi da pirata per poter andare a, per poter inizialmente liberarsi e poi salvare la solita isola e la bella di turno dal cattivo, come sempre. Ah, salvare anche l'isola? Sì. Cioè, è Monkey Island coi cani, se proprio vogliamo essere... Doggy Island. È Doggy Island. Però cosa non ha? Non ha, uno, l'umorismo di Monkey Island. Due... l'originalità di Monkey Island. Non ha le scimmie. Tre. No, le scimmie ci sono, mi sembra. E tre. Non c'è quella tre teste, però. No. Sai che non mi ricordo. Le citazioni ci sono, come ovvio che sia, tanto ormai. Sono in ogni gioco. Cioè, persino in Gilbert Goodmate parlava della scimmia tre teste. Però non me le ricordo, sinceramente. Perché ci ho giocato mesi fa. Allora, cosa ha di buono questo gioco? Innanzitutto di buono ha che è per tutta la famiglia. Il gioco ha un PEGI, come lo vogliamo chiamare, di 3. Quindi solo i bambini che non sono in grado di muovere le mani per... cioè, non sono in grado fisicamente di arrivare alla tastiera, al mouse, non possono giocarci. Difficoltà d'oro l'esploratrice. Sì, sì. Diciamo che... quelli che ancora stanno giocando, come si chiamava quello lì? Il PC, non mi ricordo più. Il Gugagu. Vabbè. C'era un PC per i bambini che aveva i giochi di Winnie Pooh, però non mi ricordo più come si chiamava. Pico Mio. Ventino. Mi sa che si chiama Pico Mio. Pico Mio. Va bene. La prossima volta nell'angolo delle rettifiche ci sarà anche questo. E solo quei bambini lì non posso arrivare a giocare a Jolly Rover. Che... ha un linguaggio molto facile, ovviamente. C'è solo una, mi sembra in un punto, un'allusione sessuale, basta, ma proprio niente di che. Per il resto è iper politically correct. E in più la versione italiana non è doppiata in italiano, ma vabbè, comunque il doppiaggio è molto buono. E a livello di gameplay, purtroppo, ci troviamo a parlare di una facilità che veramente fa venire il latte alle ginocchia. Beh, scusa, un 3 di più. Vabbè, però, praticamente, tutti gli hotspot della mappa viene mostrato il loro nome quando gli passiamo sopra con il mouse, no? Questo è un classico. Però, se non ci abbiamo ancora cliccato, il nome è di un colore diverso. In modo che così capiamo dove abbiamo già cliccato. E va bene, fin qui ci siamo. Purtroppo in tutte le mappe il 90% degli hotspot è barile, bottiglia e corda. Cioè in tutte le mappe del gioco c'è bottiglia e barile. Quindi qui la corda sarei sempre. E non una bottiglia e barile. Ci sono 6 barili in ogni mappa, per dire. Questo è perché nel gioco ci sono molti oggetti da raccogliere, senza alcuno scopo vero e proprio. Semplicemente alla fine del gioco ti dice quanti obiettivi secondari hai compiuto, e sono raccogliere i cracker, raccogliere i pezzi da 8 e raccogliere i pezzi di bandiera. Come si raccolgono queste cose? Cliccando allo sfinimento sugli hotspot che non servono a niente. Perché a volte, se tu fai un evento e torni in una mappa dove hai già toccato tutto, certi hotspot sono ricliccabili e non ti dicono niente di nuovo, però hanno i cracker o i pezzi da 8 sto giro, prima non li avevano. Ci tengono aggiornati, scusa. Cioè, quindi tu ogni volta che fai un enigma sostanzialmente dovresti ricliccare tutti gli hotspot sperando di trovare benedetti pezzi da 8, cracker o pezzi di bandiera che non servono assolutamente a niente. In più ci sono anche, diciamo, come si chiamano? Achievement in Warcraft, cioè, ci sono anche gli achievement. Sono tipo una decina, ma 9 su 10 sono obbligatori per la storia. E tipo hanno nomi vaghi, tipo il cane volante, cose così. E quando tu in una storia fai un certo enigma per andare avanti, li sblocchi. Mi sembra ce ne sia solo uno che è secondario. E ma per ora più che achievement, teoricamente sono. Cioè, sono anche volendo indizi, perché tu leggendo il nome magari puoi capire cosa devi fare. Sì, alla fine sì. Sono un po' di per forza fare. Allora, i dialoghi sono iper senso unico, cioè i dialoghi sono frasi, scambi di parole tra personaggio e personaggio, una volta non ci sono quasi non ci sono dialoghi incrociati, ovvero da un dialogo tiri fuori un altro albero di dialoghi e vai avanti così, come ci piace fare a noi amanti delle avventure umoristiche. E quasi mai, a parte i rari casi, i dialoghi non portano a niente, cioè non ti dà quasi mai non ti danno nuovi oggetti, per dire, raramente. E oltretutto non li puoi ripetere, quindi quando con un personaggio hai esaurito tutti gli argomenti non gli puoi più dire niente. Gli enigmi sono facili da far paura, oggetti da combinare nell'inventario mi sembra ce ne siano pochi niente. Per rendere un pochino più divertente il gameplay però c'è un'idea molto carina, ovvero la magia voodoo, come in tutti i giochi di pirati. Come Monkey Island. Come esattamente. In tutti i giochi di pirati, dai. Anche in Voodoo Island. Vabbè. E praticamente il nostro Gaius avrà all'inizio noto come Gaius, poi dopo diventerà il temibile pirata Jolly Rover. Temibile pirata NDR. Avrà questo libro, a un certo punto del gioco, questo libro della magia voodoo che gli dà a disposizione un tot di mosse, come un po' come il Monkey Combat in Escape of Monkey Island, per chi lo conosce. Nessuno? Sì, io sì, sì, sì. Ecco, lì c'era A E I Uk. Qui non mi ricordo quante mosse sono. Comunque, attraverso la combinazione di mosse puoi creare un incantesimo. Ce ne sono, mi sembra, 3 incantesimi, più alcuni hanno l'inverso. Cioè, se c'è l'incantesimo che annulla la gravità, c'è quello che invece aumenta la gravità, per dire. Che per scoprirlo semplicemente basta aver scoperto quello prima e invertire l'ordine delle mosse. E come scopre durante il gioco gli incantesimi Jolly e Gaius? Guardando le scimmie, perché le scimmie le fanno. Ah. Vabbè. Detto questo, manca da aggiungere che a un certo punto del gioco c'è qualche enigma di difficoltà leggermente maggiore, anche carino. Niente. Cosa dire? Una lode al gioco va al fatto che è stato fatto da un team molto molto piccolo di persone, tra cui come beta tester ha partecipato anche Edmundo Ruiz, ovvero un membro del forum di AGS che praticamente trovate nei crediti di ogni gioco di AGS. Ah beh. Ed è anche nei crediti di questo Edmundo Ruiz. Ma che bravo il nostro Edmundo. Che praticamente ho letto anche chi è, lavora per una ditta di videogiochi, programma videogiochi, credo per il browser game, Però a tempo libero fa beta test per i giochi amatoriali. Beh. Salutiamo Edmundo Ruiz. Ciao Edmundo. Ciao. Infatti quando l'ho visto i sottotitoli di questo gioco mi sono detto, ma io questo qui dove l'ho già visto? Dopo era nei sottotitoli di tutti i Ben Jordan. In lui. Realtà anche nei tuoi giochi non te ne sei mai accorto. No, no. Esatto. Filtrato da su. Dovresti metterglielo, anche, solo, anche se Grey non ha partecipato. Vabbè, torniamo... Allora, non ho parlato della grafica. I personaggi sono in finto 3D più o meno. Cioè, almeno... Gaius, il protagonista, dà l'impressione di essere finto 3D, ovvero hanno creato il modello 3D e poi hanno fatto i vari frame da montare. Però solo lui dà questa impressione. Esatto, è un'impressione o è una certezza? È un'impressione, non te lo so dire. E le stanze del gioco, che qui mi dà più di 60, disegnate e colorate a mano, sono molto carine. Il problema sono gli hotspot, che sono ripetitivi e sia nella presenza scenica che narrativa, diciamo. Sia non c'è la varietà quando vai a cercare le cose su cui cliccare, ma non c'è neanche nella scena, perché comunque in tutti i posti che vai è pieno di barili. Ma scusa, i pirati cosa bevono? Da dove bevono? I pirati con cosa si calano? Con le corde? Allora, barili e corde sono quello che fa per i pirati. Sì, vabbè, ma io quando disegno una mappa per i miei giochi, penso prima cosa sono le cose stupide che non ci dovrebbero essere, e ci metti quelle prima di arrivare a metterci i barili. Ma tu non ci metti i pirati? No. Scusa, i pirati dove vivono? Nei barili. Quando invece arriviamo al secondo capitolo, le mappe diventano un po' più varie. Vabbè. Allora, le features del gioco, almeno nella versione scatolata, ma poi penso anche in quella Digital Delivery, sono più di 60 ambientazioni interamente disegnate e colorate a mano, e quelle sono buone. 25 bizzarri minacciosi cani di mare con cui interagire, e questi sono buoni perché, nonostante i doppiatori siano 5, sono molto o 4, sono molto bravi, e i cani sono disegnati molto molto bene. Peccato che la metà dei personaggi dica due frasi. Decine di obiettivi e contenuti extra da sbloccare. I contenuti extra sono sketch e qualche pezzo di colonna. Cioè sketch, sono artwork e qualche pezzo di colonna sonora. Ma le cose, gli obiettivi secondari, io non li metterei come cosa positiva perché. Perché? Sono obbligatori. No, ma va là. No. Cioè, cercare i pezzi da 8, i cracker e i pezzi di bandiera, dai. E l'edizione speciale contiene il diario di bordo del capitano, che mi sembra che ogni volta che risolvi un enigma o parli di qualcosa di importante viene compilato questo diario di bordo dove Gaius parla in prima persona, quindi è come leggere la storia dal suo punto di vista. Tutti i concept art, la colonna sonora e i commenti degli sviluppatori. Ecco, questa è una cosa interessante, possiamo giocare il gioco con i commenti degli sviluppatori in sottofondo. Ah, questo sì, è una cosa interessante. Buono. Sì. Nell'avventura grafica l'ha fatto recentemente Ben Jordan nell'ottavo capitolo. Ma non mi dire. Francisco Gonzalez. Il gioco in longevità è molto corto. Diamo dalle 2 alle 3 ore. Addirittura. Se ti metti a cercare i pezzi da 8 e i cracker, perché se tu vai dritta alla storia fregandoteni di trovare tutte quelle menate, 2 ore. Andiamo i 2 ore. Ora lo batte anche Pokémon Snap. Sì, quello, infatti. Sì, sì. Infatti, nei gruppi in cui appartiene su Moby Games abbiamo protagonista animale cane, ok. Ad esempio il mio Cat Knight è un protagonista animale gatto, infatti. Game Engine Playground. Non conosco questo game engine. Gioco col commento dei visori, c'è anche questa categoria. E tema pirati di mare. È vero che ci sono anche i pirati spaziali, come Skies of Arcadia, ad esempio. Sì. Sono andato a vedere categoria gioco con i commento degli sviluppatori. Ecco, altri giochi di AGS, c'è cioè Resonance, Gemini Rue e The Blackwell Deception, e ce l'hanno, ad esempio. Ce ne sono tanti, cavolo. Va bene. Ok, detto questo, Jolly Rover, se avete dei bambini piccoli e volete introdurli alle avventure grafiche, questo gioco è perfetto, come altri giochi tipo il Pirata Barbanera della Microforum, della Nikita, distribuito dalla Microforum, e l'altro era sempre loro, si chiamava quello di Robinson Crusoe Tarocco, Robinson e l'Isola del Tesoro, sempre della Nikita, distribuito dalla Microforum. I giochi Microforum sono usciti 10 anni fa, e se li trovate, come io ho trovato il Gilbert Goodmate per sbaglio, costano meno di 10 euro, quindi... Ma solo euro invece, Big Games 5 euro. Vabbè, no, 15. C'è lo scontrino ancora, l'ho pagato 14,98, scusatemi. Puoi mettere risparmio. Sì. Niente, se voi avete qualcosa da dire, avete qualcosa da aggiungere su questo gioco? Hai speso troppo. Sì, sono d'accordo. Sì, effettivamente per 2 ore. No, però mi fa piacere, cioè uno di quei giochi che tra 20 anni ci, ma guarda, è da collezione, dai. Vabbè, alla fine 15 euro per un gioco non sono neanche tanti, se ti incuriosiva. Puoi dire di non essere completamente soddisfatto per la longevità, però... Se un giorno avrò dei figli, dai. Vabbè, però almeno ti sei, almeno sai, almeno conosci il gioco, sai cos'è, sai com'è fatto. Lo puoi recensire, se no non avresti potuto recensirlo. Vuoi mettere? Se ogni volta ti dovessi fermare a comprare un gioco perché pensi sia, non sia un gran gioco. No, ma comunque dai, ci sta, non sono pentito. E prima di dare il voto vi aggiungo una cosa. Nel libretto fa vedere quanta roba c'è. Ecco, vi dico subito. Praticamente ci sono 90 cracker e 24 pezzi da 8, e c'hanno uno scopo, non lo sapevo. I cracker e i pezzi da 8 li puoi consumare per comprare pezzi, per comprare artwork e roba varia, contenuti speciali praticamente. E, poi c'è il rango, che è vero, durante l'avventura tu hai un rango che parti da non mi ricordo cosa. Osso sarà tipo. No, più idiota, c'è un cirripede all'inizio tipo. Sono quei molluschi che si attaccano alla chiglia delle navi. Sì. Va bene. Ok. E ogni volta, cioè, tu in teoria non sali ogni volta che fai progressi grossi, tu sali continuamente. Ogni volta che un personaggio ti dice una cosa importante, sali di rango. Ogni volta che fai un enigma, sali di rango. Cioè, ogni 2 secondi senti la musica dell'organetto e viene scritto il tuo rango. Sali di rango. Cosa? Sali di rango. Sì, ma ogni 2 secondi. Beh, vabbè, è carino. È come quando in Secret of Monkey Island Guybrush fa la combatte. Quello è più divertente. Sì, sì. Che combatte dietro a un muro, tu non vedi cosa succede. Però leggi le cose che tocca. Leggi gli hotspot su cui passa e sono cose stupidissime. Cose così. Labbra di cera giganti, vabbè. Me lo ricordo. Usa labbra di cera giganti su... con gli occhi inferocito. Sì, esatto. E alla fine prendi il dolodoro e se ne va. Bello, bello. E come vi dicevo prima, gli achievement sono chiamati bottino. Ogni volta che fai un achievement ti viene dato una moneta nel bottino che rappresenta quella cosa che hai fatto. Quelle sono molto carine da vedere almeno. E sono 6, 12, 13, 14, 15. Bene. Detto questo... Il gioco, come dicevo prima, se avete dei bambini piccoli è adattissimo a introdurli al genere. Se siete adulti non ha senso giocarci. Detto papale. Quindi tu sei un bambino o un adulto? Aspetta. E diciamo che è una via di mezzo. Sono soddisfatto a livello collezionistico. Come giocatore vabbè, ho passato delle 2 ore di tempo. Però se aggiungevo 10 euro mi compravo New Beginning ed ero più felice. Ma va bene lo stesso. Quindi una banana per un adulto. Finalmente sei preso con le banane. 4 banane per i bambini. Mi hai dato del bambino? No, e con i bambini ti guardavo e parlavi. Di media. Con i bambini intendo sotto i 6, 8, 7 anni. A 8 anni sono già pronti per essere svezzati con vere avventure serie. Tipo, dove vado la sball? Così imparano. Così da 8 anni passano a 14 anni perché imparano tutte le parolacce del mondo. Sì, ti fa diventare 18enne in un secondo, sicuramente. Ah, 18enne no. Io avevo 18 anni quando l'ho fatta, ma ero regredito facendola. Quindi se la gioco un 18enne torna indietro. Sì, e si rigode l'adolescenza, un periodo orribile da vivere, vero Riccardo? Sì. Sì. Io chiuderei qui. Donkey Kong è il segno che è ora di chiudere. Quindi passo il testimone a chi di voi due vuole parlare. Chi vuole parlare? Dai, potrei parlare io. Dai, vai. Allora, oggi parlerò di un gioco uscito l'anno scorso, Skyrim. Uscito l'11 novembre 2011, è il quinto episodio della saga di The Elder Scrolls. Una saga iniziata nel lontano... non mi ricordo. 1980. Inizio degli anni 90. Cioè. 94. 1994. Sì, era su Super Nintendo. Il primo qual è già? Il secondo è Arena. No, il primo si chiama Arena. Elder Scroll Arena. E il 2 è Daggerfall? Il 2 dovrebbe essere Daggerfall. Sì, okay. Sì, il 2 è Daggerfall. Esattamente. Stanno telefonando in redazione, probabilmente. Ovviamente questa saga qui si è molto evoluta sotto il livello grafico e di giocabilità. Una saga che è iniziata... in modo, diciamo, all'inizio limitato con i primi, è iniziato ad essere sempre più orientato a una buona grafica, buona poi, ne vedi mezzo. Riccardo, per un attimo, sta suonando il telefono della redazione, probabilmente è qualche fan che sa che stiamo registrando e vuole farti una domanda su Skyrim. No, penso no, e comunque non si sente il telefono, quindi... No, io l'ho sentito. Lo possiamo ignorare. No, comunque non so come faccio a saperlo, probabilmente hanno degli infiltrati, comunque vai. Ci hanno tagliato i fondi. Non possiamo più usare i suoni della Nintendo, mi dispiace. Chi ha detto? Ah, va bene. Te l'ho detto, il telefono. Allora... Scusa, vai avanti. Dicevo, all'inizio era un gioco comunque abbastanza limitato, una saga senza, come gioco limitato, man mano che la saga andava avanti è stato essere sempre più un gioco più che altro di esplorazione, di gioco di ruolo. Tu interpreti un personaggio e ti devi integrare in quello che è un mondo immaginario. Diciamo che hanno giocato per primi la carta della... forse Far Cry l'ha fatto prima, vabbè, loro la carta del più vasto il mondo, meglio è. Sì, ma più che altro ci sono varie... soprattutto negli ultimi, da Morrowind in poi, c'è una trama principale e poi ci sono tante sottotrame, ci sono le cosiddette gilde, così, che dove ti fanno delle altre trame, anche abbastanza lunghe alcune. Scusa, interrompo un attimo. Sto giocando adesso a Discworld Noir. Discworld Noir ci scherza su sta cosa delle gilde. E c'è la gilda dei cani in Discworld Noir, solo per dire. Quindi diciamo che come lunghezza è... cioè, questi giochi qui hanno una buona longevità alla fine, perché ci sono tantissime cose. Poi secondo della persona ti può annoiare o tipo. Esatto, sostanzialmente finiscono quando il giocatore si stufa. Esattamente. Poi sì, ci sono i giocatori più accaniti, più bravi, che finiscono, sono capaci di finire tutto il gioco, compreso le sottotrame, le quest secondarie. Ne ho conosciuto uno. Anch'io. È ancora vivo? Sì. Ancora vivo. Io una volta stavo parlando a un gruppo di persone, ho detto: ah, ma Oblivion è infinito perché si aprono i portali in continuazione. Lui: io li ho chiusi tutti. Cosa? Sì, finisce Oblivion. Io l'ho finito. Ah, va bene. E adesso sto giocando a Skyrim. Suppongo che sarà Barba. No, no. Molto lungo. Era Maui, ma no, te non lo conosci. Allora... sia quest'è. Parliamo... adesso concentrandoci su Skyrim in per sé... Skyrim è ambientato circa 200 anni dopo agli eventi di Oblivion. E Skyrim è una, proprio una regione di come si chiama? Tutto il mondo. Tamriel? No, il continente Tamriel. Tamriel, sì, esatto, stavo proprio parlando di Tamriel. Praticamente è una provincia di, di Tamriel. Sì, quindi che tu probabilmente siete in Trinale, sì. praticamente è un'ambientazione, come dire, nordica, nel senso è un mondo, come dire, dove c'era neve. C'è neve, è inverno, diciamo, un inverno. Ci sono i vichinghi, gli orsi polari. Sono la razza principale che popola questa regione sono i nord, cioè uomini nordici, quindi forsuti, alti, barba, pelliccia, corna, birra, mutande. Sì, esatto. Mutande di cashmere. Vabbè, qui ci sono dettagli che aggiunge il nostro Wario. No, è la realtà. Questo gioco, diciamo che è stato sviluppato più che altro con un target verso le console, diciamo. Infatti, sì, l'interfaccia si è fatto, cioè è ottimizzata, secondo me è ottimizzata più che altro per una console, per un joystick. Anche se comunque è giocabile, io ho la versione PC, è giocabile con il mouse. Almeno, così dicono altri, mi sono comprato un joystick dell'Xbox. Immagino che giocarlo con la tastiera sia un tormento. Sì, no, fidati, non... che è un tormento. C'è gente che ho conosciuto che dice che ci si abitua ed è giocabile decentemente anche con mouse e tastiera. Secondo me no, quindi... Io sarà che non mi piace tanto la... Io personalmente... Come gioco, però non ci sono riuscito con la tastiera. Io personalmente mi sono trovato male con mouse e tastiera, infatti mi sono comprato un joystick di Xbox 360 compatibile col PC, utilizzabile non solo con Skyrim, ovviamente, con tantissimi giochi. Più che altro tipo Skyrim ha proprio l'integrazione con l'Xbox 360, cioè l'opzione per il joystick è c'è proprio scritto joystick dell'Xbox 360, c'è scritto joystick random, per dire. Questo mi fa pensare, non ho provato con altri tipi di joystick, però mi fa pensare che è probabilmente compatibile, a meno che di modifiche con qualche programma esterno, è compatibile solo con quel joystick lì. Una domanda, aspetta. Marco, quanto tempo sei messo a rinunciare dopo aver visto la tastiera, come funziona? Ah, guarda, io ho fatto forse le prime tre quest. Quando poi ho visto che per far scorrere gli oggetti nel menu dovevo usare la rotellina del mouse e non potevo cliccare con il tasto, ho lasciato stare. Ah, sì, è abbastanza scomodo, effettivamente. Questo gioco qua, diciamo, è un po', secondo me, qualche differenza da Oblivion, come il fatto che alla fine... No, aspetta, sto facendo dello spoiler, forse. Diciamo che tu sei un prescelto, diciamo. Vieni visto sin da subito come qualcuno di speciale, perché è ambientato sul fatto che... sul fatto del ritorno dei draghi. Draghi che non si sono mai visti a Skyrim, se non nelle leggende, diciamo. Quindi... E tu sei quello che può, cioè, che così nativamente parla la lingua dei draghi senza neanche sapere il perché, diciamo. Quando ci sono alcuni che devono studiare, diciamo, questa lingua dei draghi. Alla fine urlano della roba e hanno dei poteri strani. Ma la maggior parte della gente li vuole massacrare, in realtà. Sì, perché allora i draghi sono di natura cattiva, diciamo, malvagia. Razzismo. Non ti attaccano, tu, non tu. Di chi scrive il fantasy male, questa razzista. Sì, esattamente, perché tu se incontri un drago non troverai mai un drago buono, ecco. Un drago ti attaccherà sempre. È che sostanzialmente li fanno cattivi, ma il fatto che loro siano superiori a noi e lo sanno non indica che siano cattivi, semplicemente ci tratterebbero come... Ma alcuni sono intelligenti, ti parlano, altri sono abbastanza stupidi in realtà. No, se non hanno voglia di parlarti, semplicemente non vuol dire che ma sono stupidi. Ma hanno la bandana, le bombolette e fanno il murale sui muri, sono dei vandali, sono. È che teoricamente vandali la lingua dei draghi, la lingua dei draghi, nativamente parlare la lingua dei draghi dovrebbe scatenare un potere strano. Quindi teoricamente un drago parlandoti ti dovrebbe ammazzare, in poche parole. Quindi un drago che è capace di parlarti in lingua comune dovrebbe essere una intelligente, diciamo. Ok. Poi vabbè, sono considerazioni non fondamentali. Sono cose che poi ti spiegheranno, se starai attenta alla storia, ti spiegheranno intanto che giochi, quindi... Diciamo che ci sono... C'è una quest principale, diciamo, che praticamente avrà come, diciamo, scopo sconfiggere il drago finale, diciamo. Ovviamente sto drago, che poi incontrerete sin dall'inizio, perché proprio all'inizio, grazie a questo drago, eviterete di essere uccisi, perché ovviamente, come in tutti i giochi di Zelda Scroll, voi partite che siete dei prigionieri. Sì. Il drago si chiama... Il drago chiamato Alduin. Vabbè. Dettaglio... Non so quanta importanza. E invece praticamente... di essere riconoscente, lo vuoi uccidere. Ti ha salvato. Ma... Cioè, praticamente... Indirettamente ti ha salvato. Ma esatto, ma salvato indirettamente. Lui ha attaccato il villaggio... di quelli che mi stavano giustiziando, che casualmente, però casualmente doveva proprio attaccare quel villaggio, cioè tutti i villaggi che ci sono, scarica proprio quel villaggio lì, così, e praticamente nel casino riesci a scappare. Dopo tu decidi, praticamente, perché praticamente sì, c'è anche la sottotrama, che alla fine è un'altra trama che vedrai dopo. Praticamente ci sono due fazioni dentro Skyrim che si picchiano, e tu ovviamente potrai decidere su che fazione allearti, che sono gli imperiali e i manto della tempesta. Invece non so... tempesta. Esatto, manto della tempesta. Mi sembra che anche coso fosse così, come si chiama, quello che a New Vegas, Fallout 3 aveva una cosa simile, vero? Certamente non lo so. Ok, chiedo a Marco. Che cosa? Scusa, mi sono perso. Fallout 3 aveva le due fazioni in cui potevi scegliere da chi sta, a che parte stare. Fallout 3? No. Ok. Non mi va. No, cioè, Fallout 3 praticamente è il mio gioco preferito di sempre, ma non mi pare che abbia le due fazioni. No, probabilmente mi sono confuso con Knights of the Republic. No, sei confuso con te stesso, tu non lo sai. No, con Knights of the Republic. Esattamente. Non è vero, non lo so. No, Fallout 3 è più abbastanza libero, cioè fai quello che vuoi. Mm-hmm. Esatto. Probabilmente qui ci sono due fazioni, cioè... Sono come ho detto, ci sono tante quest sottotrame, che in realtà sono trame abbastanza estese, abbastanza articolate. Una di queste sono questo conflitto tra il Manto della Tempesta e la Legione Imperiale. Tu all'inizio sei un prigioniero catturato in un, diciamo, in un'imboscata degli imperiali a questi Manti della Tempesta. Però dici, alla fine tu, quando all'inizio, puoi scegliere già da subito con chi allearti, diciamo. Tu devi seguire, ci sono due persone, c'è cioè un bivio, diciamo. Tu puoi scegliere che persona seguire, se seguire il Manto della Tempesta o seguire l'imperiale. Anche se questa scelta non condiziona alla fine. Semplicemente questa scelta qui ti darà la quest che ti permetterà di andare a parlare con il tizio che ti inizierà alla trama del conflitto, diciamo. Però ovviamente, anche se c'è questa quest, puoi decidere benissimo di andare a trovare poi più tardi la quest per allearti con l'altra fazione. Poi ci sono altre fazioni, tipo c'è la classica confraternita oscura. Sono assassini. Ok. Poi c'è la gilda dei ladri. I compagni, che sono una fazione che non esisteva nei vecchi Elder Scroll, una fazione di Nord, diciamo, una specie, diciamo, di famiglia allargata. Alla fine tu entri a far parte dei compagni, entri nella parte della famiglia, dopo ci saranno delle quest da fare e dopo ci sarà tutta una trama che ovviamente si rischia di cadere nello spoiler. Nello sporo spoiler. Anche perché se vi sto a spiegare tutte le gille, praticamente vi cavo praticamente tre quarti di Skyrim, se vi sto a dire come funzionano tutte le gille, giustamente. Poi non che dire? La battaglia, non so. Il sistema di combattimento e sì, il gameplay. Allora, intanto parliamo, che so, della telecamera, diciamo, di come vedi tu il personaggio. Allora, tu puoi scegliere se vedere il personaggio in prima persona, cioè più realistico possibile, o il personaggio in terza persona. Diciamo che è soggettivo, tipo, diciamo, in prima persona ti fa entrare più nel fatto del gioco di ruolo, diciamo, nel fatto di ti impersonifichi più nel personaggio. Però come nei combattimenti così è più comodo qua in terza persona. Ovviamente. Diciamo che tu puoi, diciamo, specializzarti, cioè essere un guerriero, un ladro o un mago, diciamo. Non è che tu all'inizio devi scegliere la classe, diciamo. All'inizio scegli semplicemente la razza, che ha dei poteri razziali, ma che non, di solito più che altro ti indicano che tipo di classe puoi giocare. Del resto semplicemente hai delle abilità da aumentare. E all'inizio tu dovrai scegliere, ci sono delle pietre del potere, una roba del genere. Praticamente tu sceglierai se sono tre pietre: pietre del ladro, pietre del guerriero e pietre del mago. Sceglierai che tipo di abilità aumentare. Il mago più che altro quelle magiche, il ladro quelle di furtività, eccetera. E il guerriero quelle di combattimento corpo a corpo, eccetera. Queste pietre qui le puoi cambiare quando ti pare, quindi nel senso, se a un certo punto ti sei fatto tutta la vita di furtività, ti sei stufato di fare il ladro, puoi decidere di aumentare le abilità del guerriero alla fine. Hai completa libertà, diciamo, di fare tutto. Ovviamente se ti metti a fare un miscuglio rischi di avere un personaggio debole, diciamo. Sì. È come Dungeons and Dragons, fare un multiclasse tra due classi non compatibili. Sì, però alla fine con un po' di tempo, diciamo, puoi arrivare al livello massimo con tutti i tipi di classi, diciamo. Puoi aumentare tutte le abilità al massimo, non hai limiti. Ovviamente, tipo, siccome ogni volta che sei di livello puoi aumentare le tre statistiche principali, che sono la magica, che sono l'abilità di magia, la salute, che sono i soliti HP, diciamo, che puoi prendere, e il vigore, che praticamente è qualcosa che equivale alla magica, cioè, però sono gli sforzi fisici. Quando colpi, diciamo, dopo dipende dall'arma caricati, oppure la corsa, lo scatto, diciamo, scatto veloce, eccetera. E tu puoi aumentare una volta che sei di livello, e quindi ovviamente se aumenterai la magica fino al livello massimo, cioè sempre la magica, rischierai di avere poca vita, poco vigore, e quindi non sarai molto adatto a combattimenti corpo a corpo, e quindi a fare guerriero. I livelli, diciamo, che si aumentano semplicemente aumentando tutte le varie abilità. Tipo, le abilità adesso non le ho contate, però sono tante, ci sono. Per farti capire, armi a due mani, armi a una mano, arceria, cioè arco, con il DLC di cui vi parlerò dopo, metteranno anche la balestra. Armatura leggera, furtività, diciamo, che sono scassinare, borseggiare, come si può capire, abilità, diciamo, da ladro. Oratoria, un po' come la diplomazia di D&D, diciamo. Più aumenti l'oratoria, più è facile. Sei affabile quando parli. Più che altro, qui alla fine non serve a niente, serve soltanto per avere degli sconti, diciamo. Perché ci sono cose tipo, sono in Neverwinter Night, dove devi convincere qualcuno a fare qualcosa, allora tu, se aumenti tanto la diplomazia, quando andrai a cliccare l'opzione del dialogo diplomazia, avrai più possibilità. Qua non c'è roba. A volte ti apre anche nuove risposte possibili, ad esempio. Sì, anche. In Neverwinter. Cioè, ci sono alla fine, però non è tanto marcato. Ovviamente se hai l'oratorio al massimo, ogni volta che ci sarà qualcosa tipo mentira o roba del genere, andrai avanti. Però non è dire, essenziale. Poi c'è l'alchimia, diciamo professioni, diciamo, per creare cose, tipo l'alchimia, la forgiatura e l'incantamento. E poi ci sono tutte le varie scuole di magia, che sono alterazione, recupero, distorsione, evocazione, illusione e illusione massa. E poi vabbè, non ho detto l'armatura pesante, vabbè, le avete, così le avete tutte. Ovviamente, come si può intuire facilmente, che cosa serve qualcosa, diciamo, armatura pesante si potrà capire che servirà per i tipi di armature contrassegnate pesanti, che saranno quelle da guerriero corpo a corpo. Le armature leggere hanno meno difesa e hanno come particolarità il fatto di essere utili in caso di quando si va in modalità furtiva, ovvero una modalità dove tu dovresti essere più difficilmente visibile. Tu ti avvicini a una persona, ti comparirà due trattini, che quando quando ti avvicini a una persona che ti può, diciamo, vedere, comparirà un occhio, diciamo, sempre più aperto, finché non diventa un occhio completo aperto. Tu, finché non hai l'occhio aperto, significa che non sei stato ancora visto, ma stai iniziando a essere visibile. E quindi può essere utile per un ladro aumentare la furtività per non essere visto, ovviamente. Mm-hmm. Aumentando questi rami, cioè questi rami, diciamo, che ho detto, avrai probabilità anche particolari, tipo arrivando... Ogni volta ci sono... È una specie di costellazione, diciamo. La musica inizia a essere molto molesta in questo momento. Cosa? La musica inizia a essere molesta. Ah, scusa. No, è veramente alta. Sono sorpreso. Dicevi costellazione? La costellazione c'era anche in Morrowind. Diciamo che non scegli la costellazione, i rami delle abilità sono organizzati a costellazione. Ah, ok, scusa, ho capito una cosa come Morrowind. Esatto, però diciamo, ogni stella, diciamo, ha delle abilità, tipo le ultime stelle ha cose abbastanza particolari, tipo puoi borseggiare oggetti equipaggiati, guardando il borseggiare, per dire. Oppure armi a due mani, credo c'era un'abilità tipo particolare, tipo... spazzata, tipo l'attacco caricato colpisce due bersagli, mm-hmm, cose del genere. Quindi ovviamente dovrai cercare di aumentare il più possibile queste abilità se vuoi imparare a usare tipo un'arma o roba del genere. Le armi ci sono vario tipo. Allora, armi all'arco, ovviamente. E poi sono le armi a mano, cioè sono i pugnali. Ovviamente arma veloce e che fa poco danno. Spada, più forte del pugnale ma un pochino più lenta. Ascia, che è più veloce della spada ma più lenta della massa, e la massa, che è più veloce dell'ascia, cioè è più lenta dell'ascia ma fa più male. Organizzati in questo modo le armi, diciamo, massa, spada e ascia, ci sono anche due mani, cioè il martello, che equivale alla massa, lo spadone, che equivale alla spada, l'ascia due mani, che equivale all'ascia una mano. Mm-hmm. Poi c'è il vestiario, armatura leggera, armatura pesante. Poi dopo ci sono tantissime varietà di armatura che si ottiene soprattutto anche con forgiatura o ammassando creature particolari. O armature edriche, che sono le più forti, che ovviamente si fanno con delle quest. Quest, diciamo, si trovano anche in modo abbastanza casuale, non sai dove sono. Non so, sono sotto proprio quest secondarie, ma che diciamo che aumentano un po' la longevità del gioco, se c'è uno che piace fare tutte le quest secondarie, piace esplorare, diciamo. È una cosa abbastanza personale. Poi, che dire, c'è il giorno e la notte, cioè il tempo passa, scorre, tu lo vedi proprio che c'è la mattina, diciamo... Piano piano magari arrivi tipo al tramonto, queste cose qui, vedi proprio la luce che cambia. C'è anche l'aurora boreale, ho visto. Sì, puoi guardare il cielo, a volte piove, nevica, c'è agenti atmosferici. Non hanno, più che altro ti diminuiscono la visibilità, non è che hanno un grande effetto. E poi appesantiranno molto... Potrei sbagliarmi. La grafica, sì. Ah, parlando della grafica, ad esempio, è un gioco che non ha una grafica pesantissima. E soprattutto ha molti livelli di dettagli. Posizioni di dettagli. dal diciamo, livello ultra fino al low tutto. Quindi anche un PC non tanto performante come il mio, che ora come ora non è un PC molto performante, puoi addirittura giocarlo in modalità high, cioè alto. Quindi la gente non è che sia piaciuto molto sta cosa, perché anche la grafica maggiore non è molto dettagliata. Allora la Bethesda, diciamo, ha deciso di rilasciare le cosiddette high resolution texture. Presente le texture con una risoluzione maggiore. Non le ho provate sinceramente, perché ho la sensazione che mi esploderebbe il computer. Però, detta di molti, dovrebbe migliorare molto la qualità del gioco come grafica. Ah, una cosa che però è una particolarità solo del gioco per PC. Esistono le mod, come in tutti i giochi della Bethesda, alla fine. Le mod per il gioco, installabili sono nella versione PC, che aumentano, alcune semplicemente su cambiamenti di grafica, tipo esistevano dei pack per aumentare la risoluzione delle texture ancora prima che la Bethesda rilasciasse il suo pack. Esistono cose anche inutili, tipo anche citazioni di altri giochi, tipo il martello, il piccone di Minecraft o la spada, la Frostmourne, la spada del Lich King di World of Warcraft. Cose del genere, che puoi aggiungere al gioco, stupide, che non servono a niente, che però vabbè, è carino, diciamo. Così. Sono simpatiche. Esatto. Tutto, diciamo, che funziona abbastanza bene, non hai grossi problemi di incompatibilità, non devi fare modifiche straordinarie al gioco, tipo crack value, roba del genere, lo puoi fare direttamente dal gioco scaricato da Steam. C'è scaricato anche sì, puoi aver scaricato da Steam, comunque si lega a Steam, comunque, anche se lo compri scatolato. Visto che siamo in tema di Steam, parliamo anche della DLC. No, alla fine che è... puoi decidere di non utilizzarlo, e comunque è comodo, almeno in ambito Skyrim, perché aumenta alcune cose, esperienze di gioco di Skyrim. Ci sono le cosiddette imprese, tipo gli achievement che avevi citato prima. Dà la possibilità di scaricare il gioco e di salvare i salvataggi, vabbè, ripetizione. Diciamo di fare un backup dei salvataggi sul server di Steam, e quindi avere accesso a queste cose qui da anche altri PC. Il tutto anche se hai comprato la versione scatolata, al contrario di certi giochi che puoi decidere o se comprare da Steam o se comprare lo scatolato. Questo qui semplicemente tu lo compri scatolato oppure lo registri su Steam, e poi puoi decidere se giocarlo, installarlo direttamente dal disco oppure scaricartelo e avere accesso a tutte le funzionalità, anche se l'hai installato, tipo il workshop per creare le mod in modo semplice, diciamo, senza dover avere abilità di programmazione. Le prime mod tipo non avevi questo supporto, perché ancora Steam doveva rilasciare il cosiddetto workshop, eccetera. Via Steam è stata rilasciata anche la DLC. La DLC è stata rilasciata prima per Xbox 360, per PlayStation 3 non è stata rilasciata ancora. Infatti certi utenti sono un po' lamentati, un po' tanto. È stata rilasciata prima per Xbox 360 e poi come contenuto scaricabile da Steam alla modica cifra di 20€. Diciamo che questa DLC è una via di mezzo tra una semplice DLC di Fallout. Semplice DLC di Fallout che non ho giocato ma ne ho sentito parlare. E un'espansione di Oblivion, che invece aumenta. Cioè, le espansioni di Oblivion sono, come dire, aumenta molto la giocabilità, nuove zone fatte molto bene, eccetera. Le espansioni di Fallout sono cose molto semplici, e la via di mezzo, diciamo che è Downguard, diciamo che semplicemente si tratta di due nuove, diciamo, come dire, rework del vampirismo e del licantropismo. Che fatte molto bene, come se fossero nuove razze giocabili, diciamo. Poi alcune cose nuove, tipo la possibilità di combattimenti a cavallo, e poi una nuova campagna, cioè come se fosse una nuova guild, che è comunque abbastanza lunga, quindi un po' come alla fine come se ci fosse una nuova guild. Forse 20 euro comunque è esagerato. Io avrei fatto pagare una decina di euro. Sì. Loro. Però comunque non sono soldi buttati, non è che ti danno una cavolata, ecco. Cioè comunque è un contenuto giocabile. Non è rilasciato in versione, diciamo, fisico, infatti è per questo che si chiama DLC. Probabilmente perché non hanno voluto, non essendo una vera e propria espansione fatta nuovi super contenuti, tipo nuovi continenti, roba del genere, non lo considerano proprio un nuovo gioco, e quindi è inutile farsi un supporto fisico. A questo punto lo compri o su Steam o sull'Xbox Live. Chi ha un Xbox sa come fare alla fine. Ma tanti giocatori di Skyrim sono quelli che preferiscono, come dire, comprare i giochi su Steam, quindi questa cosa non dà una pugnalata eccessiva al mercato dei giochi fisici, tanto l'avrebbero comprato tutti su Steam comunque. Ma sinceramente dipende dalla persona. Uno lo può trovare tranquillamente in un GameStop oppure lo può comprare comodamente da casa, da Steam, come più che altro la cosa buona è che cioè la versione scatolata si integra con i servizi Steam, quindi non è che compri la versione scatolata e poi dici però se l'avessi comprato da Steam avrei avuto tutti i vantaggi di Steam. Le menate, tipo va. Assassin's Creed mi pare. Ma poi nel... non lo puoi registrare su Steam, però lo puoi comprare su Steam e non hai la scatola. Dicevi? Beh, però in favore di Steam devo dire che nel periodo estivo e in quello natalizio fanno degli sconti che sono spettacolari sui Beh, giochi. esatto. Tipo Beh, Steam. io ho comprato Alan Wake con il 79% di sconto, l'ho pagato 6 euro praticamente. Redazione da parte mia, mi suona il telefono. È un altro ascoltatore. Esatto, vado a rispondere all'ascoltatore e ci vediamo tra qualche minuto. Okay. Diamo noi voto in banana. No, aspetta, prima, visto che siamo nel momento in cui dovremmo mettere della musica, perché manca uno dello staff, riapriamo un attimo il, come cavolo si chiama, l'angolo delle rettifiche. Perché ho appena scoperto da un ascoltatore molto attento che ci ha segnalato, chiamato Google. Vabbè, l'ascoltatore sta cazzando il telefono troppo presto. Aspetta un attimo, dico una cosa. Demon Crest, di cui abbiamo parlato nel primo episodio. Secondo episodio. Nel secondo episodio, avevano detto che il prequel era del NES. In realtà il prequel è del Game Boy, Gargoyle Quest. E tra l'altro adesso è anche acquistabile per 3DS dal, come cavolo si chiama, dal Game Store del 3DS, che è la stessa cosa della Virtual Console del Wii. Wii Shop. Sì, è la stessa cosa però del DS. C'è un nome scritto qua. Comunque Gargoyle Quest sembra molto bello. Quindi scaricate. Sì. Vabbè, stavamo parlando di Skyrim, sì. Skyrim è rivolto a Steam in quel caso. Il matrimonio dell'anno. Praticamente, come dicevamo, su Steam, come diceva anche Marco, praticamente fanno molti sconti su Steam, è una cosa buona. Tipo Skyrim, dopo mi pare 2-3 mesi che era uscito, aveva lo sconto del 50%. Limitatissimo, cioè tipo lo comprai durato tipo una settimana, no, neanche una settimana. 10 minuti, 10. Esatto. Però diciamo che se hai l'occasione puoi decidere di comprarlo subito a un prezzo molto vantaggioso che comprarlo scatolato. Dovremmo fare un messaggio tipo no, dite no al digital delivery da mettere su ogni tanto quando parla Riccardo. L'hai appena fatto. Però c'è anche un difetto sempre sui prezzi, che i giochi che non vengono scontati molte volte li trovi a un prezzo minore scatolato. È vero. È paradossale, però è così. Sì, alcuni sì. Alcuni per dire, tipo, per farvi un esempio, Skyrim costa di listino 50 euro, 49,99, scusatemi. Però se vado a comprare su Amazon, spedizione o Amazon, spedizione gratuita in Italia, eccetera, eccetera, me lo fanno pagare, mi pare, 37 euro. Un altro esempio è Blood Bowl Legendary Edition, che due miei conoscenti l'hanno comprato su Steam al prezzo praticamente nuovo, 45 euro tipo hanno speso, e a GameStop io l'avevo visto il giorno prima a 12. Però io a GameStop ho trovato Metal Gear Solid 2 edizione limitata nello scatolone di quelli a 5 euro. Sì, vabbè, perché è usato. No, non è usato, c'è scritto anche includo un DVD extra, è tutto russo. Sì, che è usato. Non è usato. Beh, in questo momento su Steam c'è l'affare del giorno, manca un'ora, e c'è Tales of Monkey Island a 8,24€. Ecco, però così gliela servi su un piatto d'argento. Sì, infatti, cioè, dici il gioco che odio di più al mondo su Steam, poi. Beh, se vogliono che lo scarico mi devono pagare loro più di 8 euro poi. E poi non lo gioco, cioè. Per tutti gli ascoltatori, bello che sono tutti capiti, è la più grande pugnalata al mondo dei videogiochi che sia mai stata fatta. Cos'è che hai detto? Che Tales of Monkey Island è la più grande pugnalata che sia mai stata data al mondo dei videogiochi. No, no, scusa, bisogna riesumare. Le tre stagioni di Sam & Max sono peggio, scusate. Va bene. A me sinceramente la prima non mi è dispiaciuta. Stavamo parlando di Skyrim. L'ho allora, detto apposta. Torniamo su Skyrim. Quante drago banane dai a Skyrim? No, finisci il discorso. Scusa. Diciamo che quindi Skyrim è un gioco che potrebbe annoiare certa gente, diciamo, però per gli appassionati è abbastanza coinvolgente. Sì, sì. Considerando che è un gioco dove la gente urla. Sì, infatti urlano e le parole del drago che ieri lo facevano un giochino in un forum in cui dicevano tipo la trama di un gioco in due righe. E tutti i giochi sembrano stupidi se dici così. Tipo Skyrim, cosa sei? Sei un barbone nella neve che urla ai draghi. Ma qualsiasi gioco, se lo dici in due righe, è stupido. Vabbè, anche Monkey Island, se vuoi, lo possiamo sfottere. Possiamo dire che è uno che vuole diventare un pirata, inizia a fare cose stupide. No, non sarebbe così. Sarebbe un ragazzino che entra in un bar e dice a tre temibili pirati assassini che vuole diventare un pirata. Un bambino entra nell'erba e un professore lo porta nel suo laboratorio. E il bambino non esce più. Vabbè. Ci siamo persi, vai. Hai qualcos'altro da dire su Skyrim? Tipo la colonna sonora che tu ovviamente avevi spenta mentre giocavi? O... Ecco, Riccardo non parla più. È sparito. Riccardo... Riccardo è stato mangiato da un drago. Ha urlato a un drago, dai, dove cacchio è? È ancora in linea, boh. L'avranno chiamato. Accendi la luce che non vedo più niente. Qua è venuto giù la nebbia. No, il problema è che qui non c'è la luce. Direi che possiamo passare alla votazione. Ah, ok, non hai è apparso dal nulla. Esatto, vedi, io scompaio e ricompaio. È passato un drago. Allora, dicevo, sulla colonna sonora che probabilmente avevi spenta mentre giocavi, hai qualcosa da dire? No, sì, la colonna sonora di Skyrim è apprezzabile, sono riuscito a giocarlo con la colonna sonora attiva. Ottimo. Anche perché, no, la colonna sonora è stato l'aggettivo nei multiplayer, perché magari preferisco sentire quando gioco con altre persone e parlo, sentire, vabbè, sì, non essere disturbato da tantissimi suoni diversi, mi bastano già i suoni del gioco dello stesso. Su Skyrim, sinceramente, in qualsiasi gioco single player giocato da solo è abbastanza noioso, secondo me. Cioè, dopo un po' senti la mancanza della colonna sonora, secondo me. Allora, siccome non ho il suono delle draga banane, metterò il suono normale, ok? Certamente. Vabbè, dovresti metterlo quando io parlo, quando io do le banane e non cavoli loro. Prima che dica. Riccardo finirà in prigione, uè. Comunque. Vabbè. Direi che do al gioco circa 3 banane. Ah, mediocre. Sì. Perché? Motiva? Allora, un gioco interessante, a me mi piace abbastanza questo genere di giochi. E quindi si merita un buon voto. Però comunque è un gioco che dopo un po' è dispersivo, dopo un po' rischi che a un certo punto inizi a potresti annoiarti, diciamo, con tutto questo e ripetitivo. In più non ho parlato del sistema di combattimento, l'avevo accennato ma non ne ho parlato. Allora, tu puoi combattere in vari modi: armi a distanza, arco e balestra aggiunte dal da Vanguard. Puoi combattere con due armi a una mano, una per mano, giustamente. Puoi combattere con le magie, oppure con magie, una magia in una mano e una spada, un'arma in una mano dall'altra. Armi a due mani. E poi, sempre utilizzando le armi così, puoi combattere stando in modalità furtiva e aumentando le abilità giuste. Hai dei bonus se tipo attacco furtivo, che classico attacco furtivo che c'è anche in D&D. Beh, è servito in un piatto d'argento. Adesso devo citare Call of Juarez, dove quando interpreti il prete hai la pistola in una mano e la Bibbia nell'altro, e il famoso spin-off di Prince of Persia, dove sei il rabbino. No, che rabbino, sei... Non ebreo. No. Prince of Persia, scusa. Dove non sei il sacerdote con il Corano in una mano e la sciabola nell'altro. Okay? Vabbè. Sette... Diciamo che il sistema di combattimento è veramente molto molto semplice, perché alla fine si tratta di combattere. Scusa, allora. Come ti rabbino col candelabro della nuca. Dai, va avanti. Basta ridere sulle religioni altrui. Esatto. Si tratta di combattere utilizzando due tasti, in caso di due armi in una mano o di magia più arma, due magie eccetera, col tasto sinistro usi la mano sinistra e con il tasto destro usi la mano destra, diciamo. E quindi alla fine il combattimento è veramente molto semplice come si combatte. Poi dopo anche nel sistema di statistiche non esistono più le statistiche forza, intelligenza eccetera eccetera. Sono alcune cose che aumentano resistenza, alcune cose, o costi magia, aumenta il vigore, eccetera, eccetera, aumenta la vita, eccetera, però non è che ci sono tante statistiche diverse. E quindi questo non è un lato che sia proprio molto positivo, cioè rende più semplice il gioco, però per chi piace utilizzare i numeri, piace personalizzare il personaggio utilizzando combinazioni migliori, non è che siano tanti tipi di combinazioni. Riccardo, ti chiedo di tagliare, perché sennò qui non ce la facciamo starci col tempo. Va bene. Ma alla fine ho finito. Okay. Alla fine dico che il gioco è bello. mi è piaciuto, però non me la sentirei di dare un voto altissimo al gioco. Quanto hai detto che costa già adesso? Di listino 50, però si riesce a trovare a meno. Io ho trovato a 37 euro su Amazon. Il problema è che se vuoi giocare anche le DLC devi spendere altri 20 euro. Quello però sì. Non ci sono sconti, roba del genere ancora. Se non concede qualcosa a Steam, ecco. Bene. Quindi alla fine, se vuoi giocare decentemente tutto con Downgrade compreso, sono 57 euro e basta, è finito. Alla fine è il costo di un gioco normale. Oppure le persone possono andare incontro alla legge di loro scelta, facciano loro. Vabbè, quello è normale. Per console per adesso dovrebbe essere diverso. Mi ricordo qualcuno che conosco che giocava sulla PlayStation 3, mi sembra l'abbia pagato 70 euro. Quindi, ovviamente se no... Si compra una PSP con quei soldi, eh. Esatto. Sempre quella solita cosa del dipende dal commerciante. Probabilmente, siccome è uscito l'anno scorso, avrà sicuramente avuto un abbassamento di prezzo. Giustamente. Dai, bene, andiamo avanti perché stiamo veramente dilungando, dai. Sì, allora faccio veloce, veloce, veloce. Ma che... No, con calma. Dipende da te, se devi andare via, se hai fretta, sì, se no prendi... No, ma va. Allora, Black Mesa Source è un mod, tra virgolette, perché tra poco spiego anche il perché... praticamente è un remake quasi totale di Half-Life, che è un FPS, un first person shooter del 98, che è stato premiato come miglior gioco di sempre nel 99, 2001 e 2005. Cazzo, ha battuto anche Pokémon Snap e anche Doadulas Barn. Inizialmente si... era costruito sopra una versione modificata dell'engine di Quake 1. e che è stata poi chiamata Gold Source, mentre il mod adesso si basa sul motore Source, che è quello che usa Valve adesso per fare tutti i suoi giochi. Mod, ho detto prima tra virgolette, perché in realtà non c'è bisogno di avere nessuno dei giochi di Half-Life per giocarci. Semplicemente basato su quell'engine, esatto. Non tanto standalone, perché bisogna avere Steam, bisogna avere un account di Steam e bisogna scaricare il Source SDK 2007, che è un tool di sviluppo gratuito che si scarica su Steam, mm-hmm. su cui si basa questo mod. Praticamente, appunto, è un remake di Half-Life e c'è un update grafico chiaramente enorme, perché si passa dal 98 al 2012, delle texture che sono state rifatte da zero, la musica anche è originale, nel senso che l'hanno fatta, è originale di quelli che hanno fatto il mod, ed è anche gratuita da scaricare sul sito della conversione. Anche il doppiaggio in inglese è ottimo ed è stato rifatto da zero, per cui più che, cioè, è una mod, però è come se fosse un gioco a parte, ecco. È un remake? No. Esatto, è un remake, però è proprio, cioè, se l'avesse fatto la Valve, secondo me, cioè, avrebbe fatto anche i soldi. Invece è tutto gratuito. È stato migliorato anche il gioco, tra virgolette, nel senso che ci sono dei livelli aggiuntivi, non dei capitoli, ma delle locazioni aggiuntive e alcuni puzzle in più. I livelli sono stati tutti ampliati in modo da... perché il primo Half-Life, diciamo che le mappe erano un po' più piccole, anche perché la tecnologia non permetteva di fare delle mappe enormi. Mentre qui ci sono dei livelli abbastanza grossi. L'unica cosa è che chiaramente è la versione 1 e per ora arriva fino al capitolo Lambda Core. Praticamente mancano 5 capitoli finali. Ah. Però adesso... è praticamente una decina di ore di gioco ci sono tutte, quindi per ora è possibile giocare parecchio. Fai conto che i capitoli per adesso sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mi pare che sono. Comunque la maggior parte del gioco è completamente giocabile. Ci sono anche dei sottotitoli in italiano, che però non ho ben capito se sono definitivi, se chi li ha fatti, perché alcune volte escono delle frasi un attimino strane. Però diciamo... Può darsi abbia usato un traduttore, il source. Non lo so, comunque... Ecco, cioè, sono comprensibili, ecco, si capisce che cosa... Devi ricordarti di configurare il source, ricordati. Dopo te lo spiego. Te lo spiegheremo. Anzi, possiamo anche spiegarlo, tanto... Siamo... Su World Games Italia parlavano di un gioco che deve uscire, che è horror, però non mi ricordo che gioco è. È un gioco sui fari, però non mi ricordo che gioco è, vabbè. E praticamente discutevano sul fatto che questi tizi, gli sviluppatori, hanno deciso di farsi in casa una traduzione italiana. Mm. E già solo nel menu delle impostazioni, mouse veniva tradotto come sorcio. E una delle impostazioni era, com'era, modifica la sensibilità del sorcio. Ed era abbastanza... Senza capire che la traduzione era di una qualità eccessa. No, vabbè, in questo caso il fatto di usare il source, l'interfaccia dei menu e la maggior parte dell'interfaccia grafica è già pre-tradotta praticamente. Diciamo che le uniche traduzioni sono nei dialoghi durante il gioco, ecco. Cioè le uniche traduzioni che hanno fatto loro. Per il resto è tutto quello che c'era di standard nell'engine source. Poi allora la musica, ho detto, è veramente ottima. Non sono riuscito a trovare chi ha fatto la musica, però è veramente azzeccata e fatta molto molto bene. L'unica cosa che forse, ma è l'unica, cioè nelle impostazioni si può abbassare, è leggermente alta la musica rispetto al resto del gioco, però è talmente, cioè entra nei momenti più opportuni, quindi non è che se c'è un dialogo parte la musica e non si sente niente, però è un po' alta, ma sono cose che si regolano nelle impostazioni. Volevo dire che Valve, che è la casa che ha fatto Half-Life 2 e Steam e Source Engine, aveva rilasciato qualche anno fa un Half-Life Source, che però era una cosa indegna, perché praticamente avevano preso i modelli 3D di Half-Life 1 e li avevano messi dentro al Source Engine, cioè praticamente era la stessa cosa. Cioè, una roba veramente schifosa. Vedo delle texture veramente vomitose, agghiaccianti. Hai cercato Half-Life Source? Sì. Invece se scrivi Black Mesa Source, vedi che le texture sono veramente fatte bene. Sì, cioè, in quello che dici che ha fatto la Valve, l'acqua è agghiacciante. No, ma più che altro quello che ha fatto la Valve, cioè se tu prendi uno screenshot di Half-Life col motore di Quake, quindi quello originale, e uno screenshot di Half-Life Source, sono uguali identici. Cioè la Valve non ha fatto altro che prendere i modelli 3D e metterli dentro al nuovo Source e basta. Sì, ha fatto una cosa inutile, se proprio. Esatto. Forse l'hanno fatto perché almeno hanno più compatibilità con tutto il resto, però era una roba inutile. Potevano evitarlo. Esatto. E invece qui si vede che le texture sono veramente ben fatte, devo dire che a tratti sono addirittura meglio di quelle di Half-Life 2, che sono secondo me delle texture incredibili, anche per l'epoca in cui è uscito Half-Life 2, che se non sbaglio dovrebbe essere il, dico subito, Half-Life 2 2004, quindi abbastanza vecchiotto anche lui. Mi hanno fatto un sacco di copertine i fan Black Mesa Source, pieno in giro con la rete. Di copertine? Sì, proprio DVD cover, fianco, dietro e davanti. No, infatti, perché diciamo che anch'io lo aspettavo con molta, cioè c'è un'attesa, c'è stata un'attesa veramente lunga, anche perché è stato. Estenuante. Esatto, cioè, è stato annunciato parecchi anni fa, e quindi alla fine si pensava che non uscisse più. Qualcuno ha detto Duke Nukem Forever, no? Ho sentito male. Beh, è che Duke Nukem Forever comunque era. Dai, non era da un team amatoriale. I team amatoriali muoiono come mosche, è più facile che muoiano. Sì, però a dire la verità, vedere l'eccellenza di questo lavoro, cioè a me sembra che sia stata una società, cioè qualche publisher a fare questo gioco piuttosto che un team amatoriale. Cioè, veramente una roba incredibile. Addirittura sono andati anche a riprendere tutti i dettagli che c'erano in Half-Life. Tant'è che, non so se ve ne siete mai accorti, se avete mai giocato ad Half-Life, che No, ci avete mai giocato? no. Lo conosco, ma non so giocare. Bene. Comunque, c'è. All'inizio del gioco c'è entriamo in questo laboratorio, c'è uno scienziato che ci dice, ci dà il benvenuto e poi ci dice che gli si sono impallati i computer. E se noi facciamo bene caso a cosa sta guardando lui nello schermo, sia nel primo Half-Life che in questo remake, si vede molto chiaramente la BSOD di Windows 98 che è crashato sul monitor. E hanno ripreso lo stesso dettaglio anche qui, quindi hanno proprio studiato anche bene il gioco per riprendere tutti i dettagli anche più piccoli, No, ecco. dovevano metterci Windows Vista in questo. Ma si vede che per mantenere Sì. È un remake comunque. Esatto, no, ma anche perché mi pare che Half-Life 1 è ambientato negli anni 90, quindi per mantenere anche una certa, come si dice, non mi viene il termine, coerenza temporale, Sì, ecco, sì. venuta. E quindi niente, per adesso io sono arrivato a un bel punto nel gioco. Mi manca ancora un po' per finirlo, ma comunque diciamo che se avete giocato ad Half-Life, comunque, cioè chi ha giocato ad Half-Life sa già di cosa si sta parlando, cioè sa già che il gioco è lo stesso, non è cambiato niente. Però il fatto di vederlo in questa veste migliorata attira molto. E in effetti anche io ero tra quelli che lo aspettavano con ansia. Ah, ecco, leggo qui che Half-Life Source, quello schifo, è uscito nel 2004, quindi. Poco dopo poi. Sì, beh, era, e penso, del gioco, sì, assieme alla Collector's Edition di Half-Life 2. Cioè, vabbè, neanche se me lo regalavano. Alcuni fan stanno, infatti su Wikipedia ancora non hanno aggiornato la descrizione, c'è ancora scritto: alcuni fan stanno realizzando un mod che risolverà le mancanze di Half-Life Source, intitolato Black Mesa. Ma su Wiki merda è normale. Eh sì, no, ma lo stavo guardando più che altro per le date. Ah, ecco, poi Black Mesa è nuovo nuovo, nel senso che è uscito il 15 di questo mese, quindi 5 giorni fa è uscito. Ah, ovviamente non provare. Non provare a modificare la voce su Wikipedia perché perderesti solo il tuo tempo, eh. Sì, no, non l'ho mai provato. Perché qualche moderatore te la cancellerebbe sostenendo che tu hai sbagliato. Sì. No, fino a sto punto no. Sì, fino a sto punto. Sono deficienti, non ci puoi fare niente. Parliamo della libertà di pensiero. Se metti una data, aggiungi tipo che è uscito il gioco, di una Dicono che voce non è già vero. esistente. Ti No, dicono che non è vero. ma non è che perché ti ha cancellato la tua pagina, Sono perché ignoranti, per il caso. sostenevano che tu facevi pubblicità. Quello però era sostenevano un'altra cosa. Vabbè, possiamo tornare al gioco Sì, che. va. Riccardo deve sempre difendere i miei nemici, non so perché. Ma se tu spari a zero su una cosa. Spara al vero su chi se lo Sì, merita, ecco. ho capito, però non puoi dire una cosa che non è vera solo per screditare, perché tu ti hanno cancellato le tue pagine per un Basta. altro motivo, avevi ragione, però Perché non puoi avevo dire. ragione io, loro sono ignoranti. Andiamo avanti, dai. Vabbè. Comunque, niente, vabbè, la storia, sì, la storia la posso dire pian piano senza entrare nello spoiler. Praticamente noi impersoniamo Gordon Freeman, uomo libero, vabbè, Beh, Freeman, è importante. sì, che praticamente lavora in questo stabilimento di Black Mesa, che ha delle similarità con l'Area 51 praticamente. Lui è un fisico teorico. Con un gran fisico. Sì, stavo dicendo la stessa cosa. E praticamente noi iniziamo che c'è questo esperimento che ovviamente va male e iniziano ad entrare nella struttura alieni che provengono da un altro mondo che si chiama Xen. Praticamente entrano nel complesso e cosa succede? Che all'inizio noi dobbiamo cercare di uscire, cioè di scappare e andare in superficie perché questa base è sotterranea. E invece poi, mentre giochiamo, girano delle voci tra i superstiti che stanno arrivando i rinforzi, che sarebbero i militari. Noi tutti contenti andiamo a trovare questi militari quando poi scopriamo che ci sparano addosso. Perché la missione di questi militari è di distruggere tutto e nascondere le prove. E da qui poi si vedrà, nel senso che andando avanti col gioco scopriremo seguiremo bene la vicenda. E poi c'è questo uomo con la valigetta, conosciuto anche come G-Man, Misterioso con la valigetta. che fa le sue apparizioni durante il gioco, e che non si capisce bene chi è, e non si capirà nemmeno nel secondo, nemmeno negli episodi 1-2 e nel prossimo che verrà. Quindi c'è tutto questo mistero che avvolge questo uomo. Comunque, soprattutto cosa c'è? È il filo conduttore alla fine. Esatto. Ma soprattutto cosa c'è nella valigetta? Appunto, no, molti dicono che non è altro che G-Man, non è altro che Gordon Freeman, cioè lui stesso che viaggia nel tempo, però sono teorie un po' strane. Però queste sono solo congetture, eh? Dei moderatori di Wikipedia. Esatto. Sì, ecco. Preferisco tenermi il mistero finché nel gioco non viene spiegato per bene. Vabbè, i nemici classici che andremo ad incontrare sono gli Ed Crabs, che sono dei non si riesce bene a definire. Se andate su Google, cercate Ed Crab. Resto di granchi. Sì, esatto, sono delle robe strane, dei granchi che si attaccano alla testa e praticamente ti fanno diventare zombie. Mm-hmm. E quindi questi, gli zombie sono i nemici principali, poi ci sono varie altre creature. La cosa bella di Half-Life è che è stata ripresa in Black Mesa, e che è stato forse il punto chiave che ha fatto decollare il gioco, è che è riuscito a mischiare elementi di sparatutto, di FPS, con gli elementi di, diciamo, di platform, ecco. Che forse è per questo che, almeno io non riesco a giocare a giochi normali sparatutto, perché mi annoio a giocare agli sparatutto classici. Invece se gioco ad Half-Life 2, a tutti i seguiti e tutte le cose, invece è più divertente, perché non è un continuo spara a chiunque. Sono queste sezioni di platform. Cos'è successo? Ho cercato i crabhead e ho trovato un'immagine bellissima. C'è un crabhead che si sta attaccando a un tizio e dice: puttana, l'unica cosa che voglio da te è la tua testa. Vabbè. Sto guardando anch'io, ci sono un sacco di parodie di questa. Di questa player, peluche, c'è tutto. Sì, sì. Non lo comprerei mai un peluche di un handcrab. Non ci dormirei la notte pensando che mi può saltare in testa. Allora. Vabbè, stavo dicendo appunto che mischia elementi di sparatutto con il platform. E quindi ci sono queste sezioni in cui bisogna, non lo so, risolvere un po'. Magari ci troviamo bloccati in una certa zona e dobbiamo capire un po' come uscire. Il classico è saltellare sulle tubature dell'acqua per aprire una valvola che magari alza il livello dell'acqua e noi ci possiamo nuotare dentro per uscire, insomma. Non è uno sparatutto classico, ecco. Poi ci sono anche delle sezioni, nel primo ci sono delle sezioni in treno, dove noi guidiamo il treno e quindi ci spostiamo per la base. E niente, questo dà proprio la sensazione che non è tutto lineare come gioco, mentre in realtà è linearissimo. Poi che altro dire? Ah, ecco, l'unica cosa, ma forse non so se in Half-Life era così, perché non me lo ricordo sinceramente. A me sembra che l'intelligenza artificiale, soprattutto dei Marines, a me sembrano leggermente un po' deficienti, ecco. Ma forse sarò io, magari a livello di difficoltà l'ho messo su normale, però non lo so, mi sembrano un po'... Magari è il modo con cui li hanno inseriti dentro le mappe, oppure che magari gli hanno dato degli waypoints, dei percorsi prestabiliti, e quindi loro si muovono su quelli. Però forse erano deficienti anche una volta e sono voluti rimanere fedeli nel remake. È probabile, è molto probabile, perché io ci ho giocato ad Half-Life un sacco di fa e sinceramente non me la ricordo questa cosa, ecco. Del tipo che magari io ho un fucile a canne mozze e sono praticamente davanti al Marine che è di spalle e ancora non si gira per spararmi, cioè. Però devo dire che quando ci si mette il gioco riesce ad essere complicato in queste cose, riesce ad essere difficile, perché quando iniziano ad arrivare una decina di Marines sono difficili da abbattere, ecco. Boh, detto questo io direi che ho finito. Ok. Banane? Banane sono 4 banane. 4? Che è praticamente il massimo per noi. Esatto, 4 perché... Allora sì. Cioè, il primo impatto è stato incredibile per me. Cioè, è proprio una cosa... Proprio... Nato il monitor, sono esplosi fuochi d'artificio, cioè una cosa una cosa incredibile. E la cosa sarà quando finiranno il gioco completamente, cioè quando... Si arriverà la quinta banana? Eh? Si arriverà la quinta banana, secondo te? Si parla di un gioco che già da solo nel 98 è stato strapremiato, un'era per gli sparatutto, tant'è che si parlava di sparatutto simile al Fly. Si sa quando usciranno gli ultimi pezzi mancanti del gioco? Sinceramente non si sa, e io ho il dubbio che la prima parte del gioco sia stata rilasciata, diciamo, per tenere calmi. Dato che ci hanno messo parecchi anni e dato il lavoro che hanno fatto, si vede che ci hanno messo... Cioè, si vede che hanno lavorato tanto. Sinceramente non lo so. Diciamo che mancano questi 5 capitoli che magari sono già in sviluppo. Però sul sito non c'è scritto nulla. Vedremo. In via di... Cioè, alla fine in via di massima sono solo da programmare, bene o male. Dovrebbero avercelo tutto in materiale. Anche perché i modelli 3D ormai sono fatti. Cioè, sono quelli. Sì. Ah, una cosa in più, che se siete degli achievement hunter, cioè che andate a caccia di achievement, ci sono anche qua, su Steam. Ci sono su Steam molti giochi hanno questa cosa qua. E anche sull'Xbox. Vabbè. E la Valve sta già pensando di inserirlo nel catalogo di Steam, questo Black Mesa. Ho visto che è su Greenlight per adesso, vero? Esatto. Chiaramente quindi... sarà gratis da scaricare sempre da Steam, però vuole inserirlo... nel catalogo. Sì, insomma, se su Greenlight riceve abbastanza voti degli utenti, lo mettono in catalogo. Esatto. È abbastanza corposo, giusto per chiudere, è abbastanza corposo come gioco, perché sono, mi pare, adesso ve lo dico subito, Mesa Source, sono... Sì. Download. Sono... Non me lo dice, perfetto. No, 6,9 giga installato. Però penso che... Perché c'è Super Mario? Questo era l'accendere del mio cellulare. Era compreso con Black Mesa Source. Ah sì, sono 3 giga e 7 da scaricare. Più il Source SDK occupa più o meno 2 giga e 8. Bella, però... Vai di download. Io ho avuto la fortuna che, siccome ho già Half-Life installato con Steam, quindi non ho dovuto scaricare il Source Engine in generale, perché ce l'avevo già e quindi ho scaricato solo il gioco. Basta. Direi facilmente scaricabile con una 56k. Vabbè, 56k magari quando ha finito è uscito anche il Black Mesa Source del 2. 6K che in certi casi è più veloce della mia linea ADSL. Ah, questa non è una cosa bella. Ok, chiudiamo qui con Black Mesa. E niente, prima di chiudere la puntata parlo 2 secondi di un gioco freeware e poi possiamo chiudere e ognuno scappa per la propria strada. Allora, volevo parlarvi di un picchiaduro freeware fatto molto bene che si chiama Battle Capacity, abbreviato è CAP, infatti lo chiamano CAP anche i creatori molto spesso. Basta scrivere Battle Capacity su Google, arriva subito, perché il sito ha un nome abbastanza assurdo da da dettare. IVNBVN.com. IVNBVN, sì. IVNBVN. Praticamente questo picchiaduro sta andando avanti da molti anni, soprattutto perché ha iniziato ad aggiungere nuovi personaggi da quelli che aveva già in mente di fare, e sono dei simil Pokémon Digimon, i combattenti, però ognuno è completamente diverso dall'altro nel modo di combattere, e questa è la cosa carina. Se nel sito clicchi su un personaggio, poi ti fa vedere tutte le mosse, e in più c'è la tabella della forza, e vedi, noterai che ogni personaggio è completamente diverso, e addirittura ti dà la strategia contro gli altri personaggi. Questo qui sa usare anche solo a raggio. Io adesso sto guardando il video, perché nella prima pagina ci sono dei video anche. Mi sembra buono. Sì, ci sta lavorando veramente da anni. L'ho conosciuto lui, è molto simpatico il game maker. Il gioco è programmato con coso, con 2D fighting maker della Enterbrain, che era diciamo la versione picchiaduro di RPG Maker. Poi si sono accorti che non vendeva e l'hanno distribuito gratis. Quindi se volete provare 2D fighting maker è gratuito, e c'è anche la traduzione in italiano, tra l'altro, amatoriale. Non è un granché l'engine, perché siccome l'hanno distribuito quasi subito gratis, crasha senza motivo molto spesso. Però io ci ho fatto un gioco. E niente, Battle Capacity probabilmente è il miglior gioco fatto con 2D Fighting Maker. Solo che non si hanno notizie da maggio, tipo l'ultima cosa che ha scritto lui nel sito, che è la versione 7.0 uscita, è a maggio, mi sembra. Mentre prima scriveva una volta al mese, quindi non so cosa pensare. Comunque nella versione 7.0 i personaggi giocabili dovrebbero essere già abbastanza. Beh, la dovrò provare allora. E si scarica dal sito, il link è su 4shared, quindi bisogna avere un account su 4shared per scaricare. Gli account su 4Share sono gratuiti, basta che vi registrate con una mail. Sì. Niente, avere l'account. Non c'è nient'altro da aggiungere, è un gran gioco, provatelo. Quindi possiamo chiudere la puntata qui, sempre sulle 2 ore. Ormai è questo in questi tempi. Sì, se parliamo di giochi così corposi, sì. Sì. La prossima volta parleremo solo di giochi 8-bit. Per me non c'è problema. Allora iniziamo i saluti. Riccardo Rixca IV, Riccardo Prati, ciao a tutti, alla prossima. Claudio Turri, Scarred Pumpkin, oggi non l'avevo tutta pronta, dai, passa un'altra parola. Marco Girardi, Gira 93, ciao grandi, alla prossima. Niente, tu non dici niente? Dopo. Come dopo? Vabbè. Vario Punk, Pietro Turri, buia! E chiudiamo qui perché non so cosa dire. Ciao!